chiuse, chiuse, chiude la porta e apre la finestra. Chi c'è? Avanti. Non è d'alfa, neanche 100, quello che avevo io che era il 150, il B150, il B105, non so, non ricordo, che era adatto per 200 watt in SSB, non gli dava neanche lui il 100, è un poco, che c'è anche il doppio di questo, con il fattore due volte più alto. Non lo so. Comunque, dai, andiamo bene, la aumenta molto, E vabbè, giusto per dare una spintarella già va bene. È come passare da un macchina da gatto a allo Lincoln. Va bene, la radio la aumenta. Infatti il significato è quello di riuscire a farti sentire. Non importa che arrivi 9.50, quando poi la radio se la mangia la sporcizia delle aree. Andrà bene. Vabbè, tutto a posto? Tutto a posto e quasi niente in ordine. Buono era il tiramisù, io ho aspettato un pezzo, ma poi ho detto, ma sicuramente l'avranno finito. E lui lì quasi a forse. perché io dicevo, ho invitato anche mia mamma, c'è cioè, anche per di mia figlia, ho detto, anzi lo faccio. Non avevo voglia, sì, ma oggi mi va un cazzo io. Che brutto che sia. Adesso domani mattina devo andare da mio fratello in pizzeria, adesso aggiorniamo, devo piantare un paio di porte, collegarli a queste ultime prese, fargli due istruttine ancora, che poi aprirà dopo il 10-12 cresima mia nipote, e poi dopo il 12 fa il pranzo lì, e poi dopo il 12 aprirà. Ah, ho capito. Va bene, no, io mai. Adesso per un po', mi devo sentire stasera, ma credo che debba andare a ultimare, dai, diciamo, ultimare il lavoro che c'è in corso, via, ai punti, e poi vediamo. Dimmi una cosa, ma l'ho contato questo qua, secondo te, com'è questo ala? Io non lo so, non è male come sto detto, sono di una buona marca. Però sì, il pezzo è anche buono, poi dipende da te. Cosa vuol dire dipende da me? Dipende che se si può prendere, io ho contatto e lo portiamo. Ho capito, ma perché ti puoi prendere uno strumento per gli apparecchi? Ma puoi commutare lo strumento che hai in tutti gli apparecchi? Per non stare lì a tacca, ce l'ho lì e basta, capito? No, non fai attacca, ci metti un commutatore anche nello strumento. Eppure. E così fai? Apparecchio 1, apparecchio 2, apparecchio 3, apparecchio 4. Devo capirci. Esatto, ti devi un po' poi abituare, però non è che... Ti spiego, non è che se uno c'ha 100 metri o c'ha 100 strumenti, questo ti voglio dire, sì, no, non c'è dubbio, però siccome uno lo voglio lasciare stabile in uno e l'altro lo voglio utilizzare quando mi pare mi piace, quindi vediamo. Guarda, il prezzo non è male, io se vuoi una risposta sicura te la posso dare stasera quando rientro a casa, che ho la linea internet di casa, perché adesso qui non riesco a fare un cazzo perché, ripeto, devo salire sul tetto per ricevere internet. Però, ripeto, il prezzo non è male, lo strumento ai suoi tempi era valido, poi bisogna vedere adesso se è giusto, se è corretto, se starà, in che condizioni è. Cioè, ripeto, quegli spiccioli se li vale, però dipende sempre che condizioni è. Sembra buono. Ne ho avuto anche altre occasioni, anche prezzo più barato, però diciamo che l'ho avuto anche, l'ho regalato, perché sinceramente era un po' così. In alcuni spandierava, capito? Ho capito, a me l'amico tuo, cioè mi hai capito chi, non ce l'ha uno di quelli seri professionali da venderti o da, sai, quelli tipo Dive, altre cose del genere, c'erano tante marche allora, a scala incrociata, non ne ha qualcuno così, che magari utilizza poco? No, anche perché anche lui ce li ha, ce li ha attaccati nelle varie postazioni. Non è un problema, era giusto perché volevo averlo io, uno in più. Sai, quanti sono questi pallini qua, no? E poi dici, ma è pronto a smontare questo qua, ce l'ho attaccato qua, prendo, attacco quello, senza stare a attaccare, vabbè. Comunque, un'altra cosa, ti ricordi, adesso l'ho notato poc'anzi, l'antenna di casa, dove l'ha puntata, quella che abbiamo messo noi, no? L'antenna terrestre. Immaginati la casa che ho al fianco, adesso si è girata completamente, e sta puntando quella casa lì. Molto sicuramente sta prendendo il segnale dall'altra antenna. Non mi è sparito un segnale, un canale non mi è sparito. L'ultima che abbiamo piazzato. si è girata di, credo 90 gradi. Ma io si è girato il palo. Il palo si è girato, allora. Palo l'antenna. No, l'antenna è la fetta a morte sul palo. Se si è girato, si è girato il palo. Vabbè, comunque sia, si è girato. E il palo come l'ha fissato? È sempre con i soliti due buloncini che sicuramente non erano stretti abbastanza e quindi ha girato. Bisogna rigirarla. Io la sto lasciando così, tanto non ha cambiato segnale, non ha cambiato niente. Credo che stia prendendo uguale lo stesso. E vabbè, però d'estate te ne dà problemi, bisogna rimetterla a posto. Sì, vabbè, senza ombra di dubbio. La metterò a posto, oggi già mi ha chiamato mio padre che si è bucato un tubo in ferro che era sottoterra e ha fatto la doccia a mamma. Stava innaffiando e si è bucato, no? Quindi il tubo in ferro avevo 6, quando prendono, che si marciscono, si bucano. Allora ho dovuto ripetere quello, insomma, oggi era una giornata un po' così. Ma perché ci avevi ancora il tubo in ferro? Da quando abbiamo la campagna. Ma quelli del pozzo? Quelli del pozzo, sì. Erano sotterrati in terra addirittura. Quando ho fatto dei lavori io, prima di fare dei lavori, ho eliminato i tubi di ferro e ci ho messo quelli nei PVC e poi gli ho fatto la logistica sopra. Però questo qua era un tubo che passava esternamente al camminamento in calcestruzzo, quindi ho detto, ah, quando si rompe lo cambio. E oggi si è rotto. Quindi l'hai dovuto cambiare? No, gli ho messo un po' di lato vulcanizzante, un po' di lato normale, è una di quelle morsette di punteggio per stringere il tutto, ma ho tappato quello e si stava tappando da altre parti, quindi ho detto vabbè, vorrà fatto. E vabbè, sarà tutto grande, quindi dovrebbe sostituire sicuramente. Sì, sicuramente è Tommaso al top 20. Vabbè. Vabbè, di l'altro, mi ricordo che noi ce l'avevamo nel posto di pezzi. Allora, sai, facevamo la cravatta, cioè la cravatta che manteneva il tubo del topo che scendeva giù. Facevamo l'inferno, la cravatta, poi da lì usciva e poi solo che tutto il ferro era curato in plastica. Infatti non ho capito per quale motivo mettessero sempre questo tipo di ferro. E anche lì c'era preso in casa, in campagna, l'avevo cambiato. Sì, vabbè, ma poi fu un tubo che sicuramente avrò cambiato più presto, prima che diciamo, venga il caldo, perché poi mi hanno piantato, quindi sicuramente vorrei la fiata, la roba, quindi ci vuole più forte. Vabbè, non dice che un giambi, non è? Non penso che sia così tanta bene, magari è un po' impegnativo, ma non si riesce. No, vuole liberare un pochino, eh. E guardare la cucina dove si può fare le cosone impegnative. Alghero, schianto l'incrocio di Santa Maria della Palma, grave a un bimbo di 4 anni. Cazzo, se ne sento tutti i giorni. Le strade non sono più sicure come una volta, la gente neanche la gente è più sicura. Vabbè. Certo. Vediamo come fare, perché questo fa così, non prende. macchia. Ehi, basta mettere un po' di crema calestazionale al bruciato. Guarda, adesso lasciamo così, non io voglio fare niente adesso. Quello è più pratico, adesso le faccio le connessioni e lo metto là, in quello là. E di quale? Ah, no, ma questo microfono è quello là. Ehi, io non c'ho il palmare, se non mi faccio le luci, non prendi il miliculo, non bisogna che tornare al tavolo, sì. Non ti piace il microfono al tavolo? Mi hai capito, mi piace il microfono al tavolo, però per trasportarlo è una rottura di palle. Ah, certo, per trasportarlo sì. Però lo devo fare anch'io, mi devo montare il tutto, metterlo nella borsa, invece così, ma mi ne scalo, lascio questo da palmo, qui quando arrivo traccio, ti faccio lo spezzone con le connessioni, lo traccio, lo stacco dentro e ciccio. Ah, certo, certo. Ma come mai te ne scalo, scusa? Ogni tanto quando mi avvicino innesca, perché se vedi che il figlio è stato a mia spunta, senza, perché non avevo con le tele sei pole. Allora gli ho messo un rapporto con un pezzo di cavo e sono tutti quanti in astratti. Ma c'è solo. Non ne avevo a sei pole, ho convinto di averceli a casa, invece sono, ne avevo una a 8, a 2 a 4, mi metto quello dell'altro microfono, solo quello dell'altro microfono non aveva ieri. E allora ho lasciato così il volante, allora ho fatto una stazione, perché sennò poi non posso attaccarci altri microfoni a questo. E allora per un disaldare lo spinotto dell'altro, l'ho fatto un prospettore, perché sennò se quello va bene il microfono, l'altro non lo batta. Vabbè, però adesso tu hai questo qua è palmare e amplificato, giusto? Sì, questo qui è palmare e amplificato. L'amplificatore è praticamente a zero, te l'ho detto, perché questo qui c'è il parla ascolta, se sollevo, Sì. Andiamo a trovare il modo di cazzo di levare questo minchia di parla ascolta. Vabbè, almeno c'è il palmare. Lo so. So io, mi pare che prima questi cazzo di parla ascolta non esistevano. Ma che cazzo di livello il parla ascolta? Ma guarda, sinceramente da fastidio anche a me. Quello dove c'ho le freccia. Però a volte tipo fa comodo per sentire come esci, però come senti perlomeno. Non so se ti ha fatto o meno. Lo so, ma se vuoi sentire come esci, cazzo ti metti un paio di cuffie e ti ascolti in PA. Oppure ti accendi un'altra apparecchietta anche senza antenna e ti ascolti, non è che ti ascolti in altri 5 minuti mentre la vedi. Questo vedi, allucinante, se l'amplificazione è a zero. Perché se io provo a solo farla, quando facciamo un trimmer, che un coso, un microscopio per... Se la sollevo, ed è praticamente a zero. Dimmi una cosa, prove lontano ne hai fatto però. No, cioè, non ti ho capito, hai detto? Ho detto prove, in lontananza non hai fatto. No, e con chi le fai le prove in lontananza? Non era nessuno ieri, ci sono tu, poi sei andato via, non era nessuno, poi me ne sono andato via anche io. No, non c'era nessuno, ho provato anche a fare un giro negli altri canali, no. C'era nessuno, ma nessuno. Ma te ci sei tu buio. No, pensavo che avevi sentito magari, ne so, Claudio. No, Claudio non l'ho più sentito l'altro giorno. Poi ieri non ho di sera più tardi non l'ho attaccato, quindi magari è entrato così di sera tardi, o magari era fuori anche lui. No, neanche io l'ho sentito. Ma perché troppo alta l'amplificata una volta microfono? Ma è troppo amplificata, sei troppo vicino e quindi ogni tanto faccio fatica a tirarti fuori, che diventi molto. Sì, cazzo, ma se la senza antenna la sei scende, sei 4, questo smetto che mi arrivano più 9 e tu sei farà da 4. E avanti, ho detto ogni tuo desiderio sarà un ordine. Cazzo vedi, questo è un apparecchio. Lo so. Però vedi, ne voglio portare. Lo so, questo mi piace, però c'è più radio là. Ma io ti dirò che con questo ti ascolto, ma non me, di più. E l'altro, sì, ti ascoltavo, ti capivo, però era, capito, immersa nel suo perché. Era così. se si così sia passenti da un estremo all'altro. Io aspetta un attimo che vado a prendermi un bicchiere d'acqua. Ma via. Andate. Ci è andato. Ti sto cercando di trovare un cacciavite che c'entra per regolare questa fittina, porca miseria, non la trovo. Che giornata ho già, bagassa di vento. A me lo stai dicendo, mi sono dovuto cucinare 4 kg di costine, faccio 4 kg di capocollo, ma Giussi, tutto il gatto in mezzo al vento. Ti sono cucinato a fare il gatto, siamo, non ne so, una chicchia di San Leonardo. Vabbè, almeno voi, insomma, avete tenuto testa a ciò che avete cucinato. Sì, no, io praticamente la giovania di Londra, avete. Mi sono mangiato la bisticchina mentre stavo cucinando, poi ho assaggiato un pezzo di capocollo, una strisciolina di pancetta, ma proprio una fetta, poi ho soffrato dentro la giovania di Londra. No, io già, ho girato le occhio, quindi. No, io quando cucino non mangio praticamente quasi mai, giusto due pezzettini così perché poi mi vuole meglio il gatto. Sì, vabbè, ma no, io già mi sono trovato a fare. Beato te. Poi mi devo mantenere leggero per domani, devo stare salendo. A trovare davvero, io sono fatto così, quando mangio oggi, fino a domani ancora non ho digerito. Perché ti credi che io stanotte mangio, no? Perfetta. Stanotte riposo. No, io la notte non sto mangiando praticamente mai. Solo l'altra notte perché ho mangiato poco a pranzo, altrimenti ci prendiamo una pizza. La nostra scia di pizza me la mangio. E comunque, adesso faccio la prova, aspetta, ora che me sono ricordato, se riesco, cazzo, queste ghie del cacchio, aspetta. Quella degli spiriti di micro, sono dei coglioni, che so. Ma credimi, sono difficoltose a togliere. Sì, perché tu non hai avuto, io cioè, ho avuto un apparecchio, tempo fa, non mi ricordo il nome. Praticamente con le unghiette ce lo dovevi infilare dentro e affettare, perché poi si sono ingoiava. Sto ancora svittando, cazzo, vedimi. Voglio fare una prova e mi dici se la modulazione cambia. Bene, attenzione Azzardo, ci sei agguato? No, Azzardo non c'è. Zevra, ci sei tu? Uno, due, tre. Tino, muscolo. Già va bene. Guarda se ha cambiato. Paola, 1, 2, 3, prova. Adesso va meglio. Sì, ma è normale come il primo. Questo è di nuovo il Lincoln, eh? No, adesso si sente meglio di prima. Meglio? Ha migliorato? Eh sì, rispetto a prima non se ne capiva niente. Ma è forte come radio, va bene? Sì, io ti sento benissimo. Siccome ho cambiato solo il microfono, ho messo il più 5, però non vorrei rovinare la radio dall'altra radio, capito? Aspetta che metto l'altro più 5, sicuramente questo è, lo prendo con la modifica o senza, questo è il punto di domanda. Non lo so, ma qual è quello? Quello che avevi tu. No, io quello non l'ho toccato, non lo so, poi se l'ha già modificato, era già modificato, però io non gli ho tolto neanche la vita. No, questo è il mio vecchio, quello che avevi tu. Sì, quello con i pomelli gialli. E con lo smitter nero. K. No. Vedi? E ora con questo com'è? Ah, se l'ha brutto. Ah, brutto. Quindi la radio cambia. Aspetta. Abbassiamo. Guarda un po'. Sì, è ancora un bel alto. Abbassa. Ecco qua. Guarda un attimino, 1, 2, 3. Ha migliorato la radio oppure è rimasta come la prima? No, quella di prima, io prima ti ascoltavo meglio. Quindi da microfono a microfono cambia, da 5 a 5 cambia. sì, perché quei 2 più 5 non hanno lo stesso stampato. Uno è a transistor e l'altro invece c'ha un microprocessore, un microcontroller, praticamente un integratino. Invece la versione vecchia, cioè la versione che ho riparato io, quella con lo smitter come il mio, dai, diciamo. Quello lì ha i transistor, l'altro invece c'ha una sorta di integratino, quindi sono proprio anche lo stampato, la costruzione, cioè la funzionalità è regolata da un tipo di stampato diverso, non ha niente a che vedere. Ma quindi cosa mi consigli, lasciare questo o rimettere quello che c'era prima? No, metti quello che c'era prima, certamente, senza ombra di dubbio. Quello sto dicendo, volevo mettere l'altro più 5 per poter migliorare la radio Lincoln, hai capito? Però se questa la rovina, tanto male che faccio il cambiamento. No, no, quella che mi hai fatto ascoltare prima era l'ideale. Allora, questa non ti piace, guarda che qua possono entrare i tuni, eh. Facciamo una cosa, guarda. Vedi se cambia qualche cosa, 1, 2, 3. Sei sempre un pochettino... Prima ti ascoltavo io, cosa hai fatto? Ho messo i tuni. No, no, no, no, toglieli allora i tuni. Ecco, e invece così sono complicato. Sì, abbassa un po'. Abbassato, 1, 2, 3. Prima avrei abbassato ancora un punto. Eccolo qua, 1, 2, 3. Ecco qua, qua ho fatto l'abbassamento. Sicuro sei che hai abbassato? Sì, sì, guarda, te lo faccio in diretta. Abbassa ancora un po', sono abbassato, eh. Ah, hai cambiato la mazza. Sto abbassando tu. Prima ero a 8, adesso sono a 6, adesso te lo metto a 5, va? Guarda un po'. Bene, a 5 va benissimo. Ma non è mai come quella prima, però. Vabbè, ma quella prima era bruttosa. È inutile che tu... hai una radio che spacca la pipilla, che spacca la tua palantino, quando non me lo ti comprende chi si chiede raccoglienti. Eia, allora, da premettere, sto utilizzando il 48 ora, con il più 5, con lo smitter giallo, non quello nero, quindi questo qua è quello modificato. Ecco, così va bene. Poi magari in un'altra radio che ha modulatore diverso, magari lo puoi spingere un tantino di più. Lavorare, ma... Mille, me. Ciao Antone, dove mi ascolti tu? Io ti ascolto bene. Aspetta un attimo che ci sono i fantasmi qua. Lui più vicino a te, lui giù perché ti diamo, boh, non lo so, ma comunque va bene. Sì, però io voglio fare... Cazzo, forse voi non mi avete capito, tanto ti spiego, io ho tolto il microfono mio, quello vecchio vecchio, dal Milan e l'ho messo a Lincoln in maniera tale che volevo magari perfezionare un pochino di più la radio, la modulazione, però nello stesso tempo non voglio guardare questa che sto utilizzando, hai capito? Sì, io ti ho capito, sì, però ripeto, poco fa, quando mi hai fatto sentire la modulazione, che mi ha detto che mi hai cambiato il microfono, con Lincoln andava benissimo. Con questo sei ancora un po' così incerto, però per carità, io ripeto, non... ciao Antonè, ben ascoltato, io non ti posso dare un rapporto di radio perché siamo troppo vicini. Sì, comunque va bene lui. Tu sei metallico invece, sembra che c'è un effetto strano, l'avrei tanto. Aspetta, questo invece non ti piace Antonè? Abbassa, come te le macchie sei, troppo fine, sembra un filocchio, abbassati appena dei toni. I toni sono tutti bassi, quindi, no, ma non va bene la radio sicuramente. No, i toni sono alti, ma sono bassi, è il contrario. Ma cos'è, il mio P5 è contrario che c'hai? Guarda così, guarda, vedi un po'. Adesso va meglio, se vuoi fare l'amplificazione adesso. Amplificazione a manetta, di più non ce n'è. No, no, però quello che voglio dire Antonio, guarda, adesso tieni presente questa modulazione tu, e adesso ti cambio il microfono e ti faccio sentire un'altra radio e mi dici se ha cambiato o meno. Aspetta un secondo prima, ti sei abbassato di watt? Sembrava gracchiante appena appena perché hai abbassato il watt. No, forse li ha alzati. No, li ho abbassati i watt, perché c'è i picchi positivi. Cioè, se metti i watt a manetta, dopodiché regoli l'amplificazione del microfono a chitoni, e poi prendi che abbassi, non fai al contrario. E sono gracchi, è logico. Aspetta, guarda qua. Adesso va bene, vedi. E quindi lascio questo microfono qua, lo lascio quanto, non so cambiare niente. Lascia quello, basta. Figa, ma questo lo sapevo già. Questo è il Milan 48, quello è il mio più 5. Ho detto adesso cambio il più 5 alla da palazzo. Vedo che non ha fatto cambiamenti. No, io ti ascolto benissimo, questa va bene, è anche fortissima, però chiaramente da me è fortissima, gli altri ti ascoltano bene. Io ti ascolto benissimo, lascia stare tutto con me, non toccare nient'altro. Oh, cazzo, questo microfono è allucinante. E adesso sto uscendo? Adesso sì, adesso va bene. Ma questo va bene, questo microfono, questa radio? Sì, la radio va bene, solo che ti sei diminuito di watt. Fregatene di watt, Antonio, a me mi interessa la radio. Siccome io di radio utilizzo questa, so che va a succedere una cosa, che se io aumento o abbasso, il microfono va a sparire. Questo non lo so, non so che apparecchio stai usando, il discorso è quello, non posso, se non lo vedo, non so cosa dirti, come medico, tu mi dici c'è la febbre, e dopo 5 minuti gli metto, per dire, l'Exotan, o quello ti posso dire, adesso non si può dire un'altra cosa, ma comunque sia, abbassa la febbre. Vabbè, tanto si capisce questo qua adesso. Sì, va benissimo, questa va bene. Va bene, se poi c'è quel problema lì, lo risolviamo, non è un problema. Quel problema lì, quando sono lì che se ne va, lo risolviamo. E io, adesso, se va bene, lascio così, non tocco altro. Questo qua è il più 5 con lo Smith giallo, con il tuo, con il Lincoln, ok? L'altra radio invece era al 48, con il mio microfono. Sì, io ho capito, comunque io preferisco molto la modulazione del 48 con l'altro, ma non per il discorso microfono, per il discorso radio. Io volevo cambiare il microfono per migliorare la radio di questa qua, capito? Però se non va, non va. Però devi tenere in considerazione che noi siamo sempre vicini, quindi magari gli altri ti ascoltano bene, io ti posso dire anche una puttanata, capo, ti dico di no, va bene. Ti sento male quando male, poi in distanza è più forte questa che l'altra. Ma siccome Antonello è un rimbambito, non mi vuole dare ascolto, Anto, ascolta a me, questo ti piace l'ondulazione? Sì che mi piace, non è che sia brutta. Il discorso è solo più che altro che c'è i bassi che sono bassi, quindi da un certo punto tende appena appena a gracchiare. Il discorso è quello, ovviamente il watt, o se no si è tregato. Ok, questa invece è un'altra radio. Io voglio cercare di farle possibilmente, tanto visto che sei lo stesso microfono, quasi somigliare. Adesso ti alzi il watt dell'altra radio. Questa ti piace l'ondulazione? Adesso va bene, vedi, questa mi piace. Se metti il watt al minimo e ci metti un sacco di potenza di audio, è logico e gracchia, è una cosa logica, è come avere il feudo che tu esci con 2,5 watt e ci metti il marchio di amarezza, strappa, perché strappa, il discorso è quello, gracchia più che altro, non strappa, ma comunque sia. E quello voglio far capire, o lo lasci con i watt sui e la regolazione ci va con quello, se no non c'è niente da fare, non si può suonare contro lo, come si deve, capito? Ok, va bene, guarda se non è saturazione ora, adesso gli ho aumentato leggermente i watt, guarda se ha cambiato la modulazione, tu che sei più lontano, però per passaggi corti, cazzo, mi addormento. No, va bene adesso. Guarda un attimino, se sta andando a peggiorare, sto aumentando sempre le fatte, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è in saturazione? Ancora no. 8, 9, 10, 11, a manetta. Va bene, la cosa va bene, è comprensibile, è perfetta e chiara. Vabbè, non ti credere che siano esagerati, infatti, sono 8-9, forse arriva a 10 con picchi positivi a 12, non di più. Fate un'altra volta, più di quello non puoi darli, se li sollevi i vatti a 15-20, non mi capi niente, mi è già capitato a me, hai capito? Massimo, massimo, può arrivare a 10 watt, 15 watt, non di più, con la bella amplificazione, agendo su LC e MC e basta, ma non più di tanto, lo sai che quel tipo di apparato ti dà 30 watt, ma non puoi usufruirne, non te ne fai nulla, per quello ti piace un lineare e va a far culo, a un certo punto. Ho capito Antonio, però siccome tu sei più distante di me e di Antonio, poi rilancio il mic Antonio, volevo solo semplicemente sapere se la radio è migliorata oppure è arrivata la solita. No, no, a posto, a posto. Antonio, io ci vuoi più vicino a te. Ci mancherebbe, anzi, dovresti essere stato da lui, in teoria. Quindi, è come avere Claudio attaccato a me che mi piace una cosa del genere. Vale uguale, non ho capito. Se scende al 5 è un discorso, ma se mette a malettone quel tipo di apparato, che è una cosa un po' strana, quel tipo di apparato lì, lo sai anche tu. E quindi più di quello non puoi fare. Tanto ha cambiato, o peggio di prima? No, guarda che potrebbe andare bene, io ti sento poco sempre questa faccia da vicinare, non ti posso dire. Però ti sento bene, cioè ti capisco, non è che si sente che è un po' compresa, però ripeto, c'è la vicinanza. Ma tieni presente che qua è liscio, non c'ho niente attaccato, quindi se io ti attacco l'altro che tu mi dici, ti sento bene, quella lì sta sparando già 70-80 watt, hai capito cosa è la differenza, anche se siamo vicini, questo è un apparato normale. No, io ti sento bene, la radio è molto amplificata, l'avrei io avanzata di 1-2 punti, comunque, sta a te. Al contrario di questa che è attaccata e tu mi dici che è migliore questa, la vicinanza è sempre la stessa. Ed è migliore questa. Ah, vero. Vedi, attuale cambia? Ascolta, fa una cosa, esci in giardino, prendi tu una 500, poi ti pigli un Ferrari e ti fai un giro insieme a Antonio Riserva. Che altri discorsi sono, scusami, è diversa radio, che c'entra, è anche diverso tipo di modulazione, tutto cambia, uno è un apparato normale, l'altro è un apparato vetametrico, devi capire quello, hai capito? Sono tipo di missioni totalmente diverse, una banda larga e l'altra banda stretta, il discorso è quello. Ma cosa mi stai dicendo mai, Antonello? Guidato, chi è? Avanti. Buonanotte. Per carità. Questo, vedi, questa è una bella modulazione. Questo l'ha chiesto per carità. Sì, l'effetto sembrava di un cofano di... Non un cofano, no. Sembrava in chiesa, sembrava. Anche quello è un prezzo, sarà. Questa va bene. Ori, prorobi. Alla prima su di voi! A parte che si dice mette sattolo, ma comunque va bene lo stesso. Sì, la radio buona è alta per il sattolo, sì è vero. Siete che sei sattolo, anche se magari c'hai 10 fa. Cosa volete che vi dica? Ma tu cosa stai usando adesso? Sei attaccato a qualcosa? Attaccata qualcosa, 180 watt ci sono qua, No, c'è una salta, vatti. Lo so. Ma partiamo, guarda un pochino, capiamo. Ah, passati, se no cazzo che ti linea. Ci sento più io, nel senso che sento la vedo la portante. Ma... Per forza, ti sto... Hola, dove vai? Oh, Tino Muscolo, guarda che ti sento pure sul 40, eh! Dove vai ora, eh? Tu, dove vai veramente? Eh? Antonè, quando arriva lì, guarda, perché sei più lontano. Anche 5-6 non di più, più. Ma non è comunque un apparecchio un bipistrano così. No, veramente il bipistrano è questo. Cos'è? Lo dico della telegrafia. Hai capito? Oppure senza? Ah, di quegli apparecchi omologati sono, quelli che stanno venendo adesso. C'hanno il bip doppio, c'hanno il bip normale. No, ecco l'apparecchio. Quell'apparecchio è mai fatto tu. Ah, ho capito nulla, quell'apparecchio che ti ho messo al posto io. Io ti ho messo al posto l'ecco. Si sembra quell'apparecchio, ma è uscito così adesso, tutto strano. Allora, era quel 48 che mi avevi messo la scatola ecco, ti ricordi? Tanto tempo fa, insomma. Un po' di tempo fa, sì. Asco, e dimmela. Ma visto che ti piace giocare cazzo messo in radio, dammi il tuo, quello grigio che mettiamo nei coperchi. Quale? Quello grigio che mettiamo nei coperchi. Quello grigio? E qual è quello grigio? Quello là che mettiamo nei coperchi. Cazzo l'hai compreso? Fila. Ah, compresa l'hai. Quello è parcheggiato, quello è quando io voglio l'attacco da centro, questo è adatto al divertimento, banda cittadina, insomma, fare casino su 45. No vabbè, l'altro è logico che mi senti stato, cazzo, ti stiamo sparando tu con gli altri con l'altro addosso, non sei girato anche il barattino. Ma non so cosa dirti io, non vuoi te lo porto il tuo, questo qui piccolino lo provi. Sì, quando te ne vai, è tu, quando senza fretta, no. Se lo vuoi tenere tiro, se no lo faccio stasera. E lo provo, mi serve gente a provare da lontano, ma non c'è problema, no? No, oggi non c'è problema per me, io posso uscire anche 2-3 watt, te lo provi, te lo. Magari esce meglio di quell'altro che ti dà qualche watt in più, ma almeno questo non ti. Capito, non ti affoga. Perché questo qua mi sta affogando? Cazzo, io non comprendo una massa di Susie Zendi e poi. Ha detto, perché cosa ti credi? Sta affogando? No, scusa un attimino, tu. Adesso, a parte gli scherzi, ora sto usando il 48, vedi che ogni tanto tu me la giri. Sì, però se tu lo unti. Infatti, appena c'è tempo non capisco niente. O parli rilassato e tieni sempre un tono di voce stampa, lasci qui, ti chiedi e ti devi passare la notificazione. Ma io abbasso, che problema c'è? Basta dirmelo. Abbassa male il tono della voce. Rilassati e io. Io ti chiedo di fare un passaggio e mi dici, guarda adesso come va, e ti continua se va bene. Sto parlando moderato, tranquillo, pacifico, sereno. Sono come dormento anche. Ce lo so io a chi darlo. Metti bravo, muscolo. Ma adesso va male, boh, insomma non ti accontento più. Adesso va bene, sì. Tieni sempre in considerazione che c'è la pubblicata della molto alta, già riusciamo parecchio, io va giù, sono parecchio. Più baracchino che sto usando io, adesso già più fino dell'altoparlante che c'è dentro. Lo vai di rimurare, se ne comprendi più nulla. Certo, ho ragione. Antonè, va bene così? Certo che va bene così. Ah, sei perfetto. Lascia tutto così. Io mi sono pigliato, guarda, le mie più 4, 35 euro. Hai capito? Figurati tu. Scontato. Se voleva 48, 35. Bravo, hai fatto un affare. Niente, forse metto parte, metto guri, però portata in mano. Un grosso metro quarto ma ti avevo portato in mano, ma io lo sai che ne ho due, dipende da quello che ti serve a te. Dipende cos'hai e quanto ne vuoi, prima di tutto. No, non li vendono, uno mi è sparito, già lo sai, di quei rossi attivati mette militari, quindi non lo rapirà nessuno. Se vuoi, guarda, io ti presto il modello 500, perché mi fido di te, e sei una persona tranquilla. Non come metto di riserva, no, cazzo, qui sei un cane musso, Sentito, dai, stavolta mi hai detto nel sonno. Allora, mio. Aspetta che leggo una cosa. Io ce l'avevo di quelli vecchissimi, allora, questo è Claudio, sto smontato con i verdi militari, con i due pulsantoni, con l'affare al centro, che se l'avevo di quelli apparecchi anni 60. E poi devo cercare, da qualche parte ce l'avrei filato. No, io l'ho volato a fare a California, ho di qui. Mi è sparito, cazzo. L'unica cosa che mi arriva è che mi è rimasto l'apparato su, me l'ho dovuto mettere a posto. Quindi figura. Grande militare, faceva la dai 26 a 200 MHz. Sì, cacchio, l'ho comato una famiglia e ce l'ho ammazzo. Quindi dei CB non è che mi fido molto. Quindi a un certo punto senza offesa, sai. No, vabbè, certo. Ma nessuno. Vabbè, ma è bellina, se vediamo se non spedisce. Se sono cinciano. Vediamo un attimino, dai. Io mi fido, già lo sai, se no già non ti faccio ti cazzo e non metti più incinta nessuno. Addirittura. E allora, già c'ho la siringa, c'ho tutto, prima di dare l'acqua, una volta che ti do la dose, metto ti cazzo. Dopo di che ti sei rientrato, che il potere lo smetto, ti do l'antidoto, ti do. Dura 48 ore. Adesso a perdere, va. Così impari, bello bene. Se tu mi serve. E se poi ti serve, ti vi incazzo di nuovo. Ora. Quindi non ti piace questa qua? No, è che sento bene la verità. Quando sei vicino a uno, è logico, cazzo, scusa. Lui ti sente male, io ti sento abbastanza bene comunque. Solo ti avrei detto, guarda, molla tutto da tutti i dini. Vabbè, dipende perché a volte esce bene e a volte esce male questo, non lo so, vediamo un attimino, guarda la notificazione si aumenta appena, ora aumentato. L'unica cosa che c'è di brutto, sai cos'è? Quando schiacci si sente quella specie di sembra che c'hai il braghiera addosso. Sì, lo so. Adesso ho aumentato la notificazione, troppo forte. Va bene così, lascialo così. No, voglio vedere se non arriva, però poco, dai. Guarda un attimino. Adesso è aumenta, guarda un po', 1, 2, 3. È perfetta, non toccare più niente, lascialo così. Qui va benissimo, non toccare niente. Fregata, è a posto. Capito? Aspetta un attimino. Guarda, 1, 2, 3, troppo. Se si è abbassato il radio. Esatto. Allora, sino a 7 e poi se ne va la radio. Ma comunque vabbè, io ho pigliato l'MP4, 35 euro. Il P5 me lo volevo fare 50, ho detto no, mi va bene P4. Cioè, ho scatolato e tutto, ma è esatto. No, ma ho cambiato la commutazione, adesso aspetto solamente di trovare una persona che mi faccia la commutazione tra lo Iaesu, il quello del Camete e l'MP4. Ora. E questo come va? È buono, c'è buono. Ma di più o di meno? Devo fare o passare? No, questo di meno, sì? Addirittura, guarda un po', di meno. Sì, più bassa la radio. Questo è più 4, con il volume a manetta, addirittura. Questo è più 4. Ma il P4 è così, lo sai anche tu, hai capito? È per quello che ho pigliato l'MP4 io, per il decamento che ho io. Perché secondo la regolazione che fai della regolarizzazione, mettere l'MP5 sarebbe un casino, sarebbe, capito? Vabbè, di lì sarebbe di Salerno, ma a me di Salerno pagare 50 euro, la verità non me ne fate nulla. Io l'ho avuto con lo sconto, 35 euro, mi sta anche bene. Ho capito. E questo non lo mette il più 5, come me l'ho regolato poc'anzi. Aspetto, avanti. Ciao Antonio. Ciao Antonio, vabbè. Ehi, Antonio. buonasera, buonasera, com'è la modulazione, c'è forte lì? Troppo? No, quello quando si faccia il microfono che c'ha il stacco, lo stacco, cioè, capito? Sembra che c'abbia un calderone. Sembra che sia il cinese, capito? Se è così il microfono, cosa ci vuoi fare? Guarda, l'ho abbassato un pochino, Già quasi tutto. Fina. Tanto non lo fa, lo fa solo con questa radio, ma solo questo tipo di microfono, Cioè, devi trovare sempre il giusto compromesso, per quello che prima, tanti anni fa, si spendevano miliardate di microfoni, perché prendi un microfono, allora va bene, lo mettevi da parte, allora trovavi l'altro, fino a quando non trovavi il suo. Guarda se senti Antonio al bombolo. Chi è? Antonio al bombolo. Sì che lo sento, Antonio Bombolo, ma se è meglio però lo sento, il segnale è buono. Sì, sto usando un manettino normale, niente di più. Sì, ciao, ben ascoltato. Altro di riserva, ma sempre di rapidi, sì o no? Dove c'era quella palla lungo? Ti ha sovramodulato proprio io non so per la faccia. Esagerato, cazzo, sono da rispetto, io. Quindi ci vado, non può essere. Stavo dicendo altro di riserva, ma abiti sempre lì in quel fosso, sì, e con quella per andare la strada al fosso, sì o no? No, io adesso abito a Sassari, su a Levaggiara, a Monte Bianchino. Ah, ecco perché l'ho passato, pensavo che eri di là, la verità, dove abitava tua madre. No, sono vicino, adesso non sono lì a casa mia, sono in campagna, sempre a casa mia, lo prezzo, però sì, sono qui, quasi vicino a dove ero prima. Sì, l'hai passato, vabbè, se ti sentivo. Allucinate, cazzo, quello lui era feroce, dovrebbe essere, dove passare lui a me, io sono totalmente dall'altra parte, la verità, con la mantova, con 15 watt del coso. Nel 2009, se ti attacco l'auto 57B, guai. Io sono molto guai. Vedi, perché lui ha un'antenna, è quello il discorso. No, quello con pochi watt. Sì, no, passano anche che sei con pochi watt, ma se hai un'antenna piccola che magari non è... è ovvio che arrivi più basso. Antone, ma che cosa mi viene a dire? No, ma siccome lui abita, cioè, adesso devo dire dove abita, perché forse te lo ricordi, in pratica, dove abitava Pesciolino una volta, quindi lui era dalla parte, Pesciolino era all'altra, tu immaginati, di fronte all'ufficio di collocamento, ci si mette la mantova, e io non lo passo più, il discorso è quello. Ti capisco, Antonio, però io sono molto vicino, infatti, rispetto lì, perché sono, io quasi di fronte a Sant'Orsola adesso, sono nella campagna lì di fronte a Sant'Orsola, quindi... appunto per quello che lo sto dicendo, non per altro, siccome lui abita dietro a dove abitava la Bonaliva di Pesciolino, quindi sei uno di tutto. Tutto lì. Non pensavo che tu abitavi a Sant'Orsola. Vabbè, Sant'Orsola ti ho di fronte in pratica, io sono a 2 km di radio, non di più. Ci sono? No, non è cavallata rispondendo, Sì, ci sei, non ti preoccupare. Oh, meglio così, eh? Vediamo se riusciamo a farmi sentire ora. Ma sono troppo lento, no, va bene. Io adesso sono stato dall'altra parte, non lo so, Ciao Claudio. No, non sono Claudio, sono sempre Tino, Ho capito. Va bene, Antonio. Riserva. No, perché ho attaccato l'altro, che insomma qua si lamentano. Esci con uno, esci con l'altro. Uno è troppo forte, l'altro è troppo piano. E allora, mettiamolo via di mezzo. Fatto bene. Io non so che segnale ho fatto, però Santiago 7. Da parte mia Santiago 7. L'avvento è qui quando la vuoi. Cos'è tu? Ho detto che l'avvento è qui quando la vuoi. La ventola? Mi avevi chiesto la ventola. Ah, sì, è piatto, no? C'è visto da voi, l'ho piatto io. Porca miseria. Che cazzo di piatto? Non mi sa scalla lo sta a fare. Ah, no? Ma non è. Prima è tiepido, ma neanche si lascia la portata 12 ore. Siccome ne avevo visto uno, insomma, però quello, l'altro, quello 747, che era con la ventola sopra, ho pensato che magari era troppo, scaldava troppo il compenso, capito? Invece effettivamente è sempre tiepido. Oh, poi gli ho messo la pasta dissipante nuova, cioè l'ho ripulito tutto, gli ho messo la pasta dissipante, l'ho richiuso bene. Quindi magari scala dopo perché era asciutto, se no la pasta dissipante secca. Ah, ho capito. Andava. Bombo, e tu come mi ascolti lì? Beh, io benissimo. Sono bene. Ho usato una maglietta secca. Ah, ho capito. Adesso quasi le vado a correre, Comunque, apri il 5 quell'apparecchio, Antonio, perché è basso di radio, è la verità. Guarda dove c'è il nuovo schema, la luce lo apre. Guarda, ti sento proprio basso, ti sento. Ti ho un sacco di apparati, attacca l'altro. Cabbia, tu vuoi che ne un bel, Mi hai dovuto vedere un Io ne ho, ho quattro scatolette, lo so. Io invece se mi dà quella fare con le lampadine che si accendono, che ve lo provavo qui. Ho capito, cosa vuoi? Quello a fare a due viti con le lampadine elettriche che si accendono, che scaldano a morte. Quello sì che è un qualcosa di serio, no il bucari. Vieni qua, però presto, vieni. Cosa vuole? Tu vuoi dormire lineare con la LED vuole? No, non è a LED questo. Se vuole, vado già che ero io. Io ho otto neoline. Del come si chiama? Di quel lineare di Marco Alfa Romeo. Figurati. Ma ascolta, adesso non per chiarire in radio, perché non so cosa si chiarisca in radio, ma quello di Benito è finito, vai. Quello di Benito è ancora qua. Molto quel pezzo, hai capito? Molto quel pezzo. Cosa devo fare? Mi faccio in quattro, A un certo punto non so cosa fare. Ci vuole lui, ci vuole altro. Il potenziometro ti ha spaccato. Rientro di radiofrequenza l'ha cribato. Le valvole non c'hanno nulla, sono a posto le valvole. Hola, guarda vedete come si dice adesso. Già va bene ora, tanto. No, perché me l'ha chiesto, non per altro, tanto è, non è che sto puntualizzando il perché non l'hai finito o meno. Mi ha chiesto, se senti Antonello, chiedigli se per favore l'ha finito o meno, così mi avvicino e me lo ritiro, niente di che. Mentre invece che valvole mi vuoi regalare tu? No, io valvole non voglio regalare, ci piacerebbe. Io ti sto dicendo solamente in pratica quel lineare che c'ha c'è solamente a cambiare quel potenziometro, le valvole sono a posto, non c'hanno niente, sono solo il potenziometro, poi il resto delle valvole che ho io ne ho 9, quello me le tengo se le voglio pagare. Quanto costavano, ho letto la prima di Giovanna Fusano, 30 euro l'ora. E sono nuove, sono del BV131. Ah, ma quelli che io sono più grandi. No, c'è presente il giumbo. Come il giambo c'ho io. Il giambo lì c'ho fatto di... c'ho con la BV lui. C'ho quello e c'ho anche la pilota. C'ho tutto completo. E sono messo dentro la scheda addirittura. Anzi non dentro la scheda, no, dentro l'applicazione. Ci sono le tre valvole più la pilota. Ma io facciamo, tu ce l'hai presente quello del giumbo? Giumbo con l'elefantino, quello con le orecchie, l'altro, il fratello, giumbo. Sì, c'ho le valvole, le valvole, complete, messe le valvole dentro la scheda, perché mi sono fatto attaccare la scheda completa, completo di tutto ciò, basta. Solamente quelle. Il resto me lo tengo, per il BV, cioè per il quello che ho io, di lineare, lo spiedi CTE. Vabbè, ma quello qui è più grande, quindi... non so che cosa c'hai, 519 o 509 c'hai? Non te lo dico, ti tengo in mezzo alle spine, così impari. E impari, così ti rotto i nervosi. Io ho già capito quali ci sono. Che va, non è possibile. Quindi non mi metti sulle spine a me, no? Appena tu sulle spine. Quando vuoi, te lo sto dicendo, ci mettiamo l'acconto e te lo porti via. Il kit completo, non ho staccato manco una valvola, ho lasciato in pratica la serie completa della pilota e altre, ci metto la base, proprio per quel motivo lì. Se ti vuole, me le paga. Sono nuove quelle. Ma non me ne faccio niente. Antonio, ma stai arrivando sì o no? Come? Sì, scusa, ma che è una persona da te, dimmi. Va bene. Non ho capito di cosa mi hai detto. Sai? Ammazza per secco. Ho detto, ma stai arrivando. Ancora stai nascando. Azzardo. Sono in desco. Qui sei alla fine, vedi? Oh, yeah. Dai poco in Brasile, in te, in te. Ma che cacchio è? Ci arriva il valore RM, andiamo 5. Io 5, ma è 9. No, Claudio, rispondimi. Non c'è, tranquillo. Non mi lasciare sulle spine. Dimmi come ti serve. Oh, santa pazienza. Allora, voi queste valvole, ci mettiamo d'accordo, lo sto dicendo, tutto completo è il pezzo, c'è la pilota e le altre. Guarda, ti lancio il mio tecnico perché su questo campo non sono preparato e non so neanche se vanno bene qua, sono tra le anche presi. Sta a te comunque, è a te, se no è sta camomilla. Non avevi la tafusa. Allora, quando lo vuoi, vieni e te le prendi. E sta te o sta camomilla, come vuoi tu. Vuoi tu. Allora, tu non hai capito niente, che io voglio far fuori questo valvolare con un transurizzato, per questione di spazio, non per altro. Se no questo qua va molto meglio, però lo voglio fare fuori. Sì, vabbè, ti prendi un BV 2001 come si dice, si trasferisce e sei a posto. Qual è il problema? Li cambi le distanze, quelle d'ingresso dei finali e ti danno 780 euro. Ma 780 watt, no? Vabbè, già ne hai capito, comunque sì. È un sacco di watt. Purtroppo Mario Massa l'ha bruciato quel lineare. Se no, guarda, l'avete avuto... sta poco petto, non lo so. Comunque sia, io ho bruciato i finali. Gli MR6422 purtroppo costa un sacco di soldi. Perché la vaccina di Trovia 511. Ma arrivando sì o no? Cazzo, ma davvero vuoi che venga? Se tu hai toccato quello che ti porti via, questo qua, te lo piazzi, te lo bruchi, te lo fai, te lo inauguri. Vabbè dai, faccio salto adesso con Cristian, che c'ho anche babà mamma, va, faccio salto un attimino. Preia, se la sono qua. Fai con calma, chiaro, mi raccomando. Sì, esce da casa, 3 minuti è qua. Che dura, dillo. Cos'è, Antu? Sicuramente arriverà qua adesso. Ciao, sono due Bucarotti, due Bucarotti, esagerato. Sto provando, tanto non mi sento nel radio, quindi. Ma meno male non si offendono. Ma ti pare che Antonio si offende? questo tipo che la si riconosce. Non so quanto è da quanto è trovato. Non lo so, non c'è un watt metterlo. Neanche 10 watt, appena acceso, ora. Oh, allora che è positivo. Già va bene, comunque non c'è problema. Stai uscendo benissimo. Per quello non ti devi preoccupare, ma... Poi io ho anche uno. Sono regalato uno. Un muletto, un Seat SSB, quello medi tre canali, un muletto è. Adesso mi prendo, aspetta, il telefono, solo, 2 minuti, sto cercando un 140, vediamo se è questo, 2 minuti. Che stai fai? Numero. Dopo mi dici su per giù in casa da Mulli, che non mi ricordo. Fatto veloce. Sono attaccati, Faccio così in basso. Antonello. Perché mi sono avvicinato alla cimbranco, Gala, gala, anda per veda. Gappa già. Ma è il giorno del profeta che si ha fatto. E che? Non lo so che fine ha fatto. Devo sempre mandargli un messaggio a Gianni, ma lo dimentico sempre. Avanti chi vuole entrare. Daniele. E chi è? Ciao, mi guardi un attimino sul momento appena disegnare questo qua. Guarda, aumentato. Allora, prima eri un euro per 5, poi sei passato a 6 e 7 modulati. Aspetta, così come è? Guarda un po', ora. Sì, da quella persona. Ma lui chiede al Massimiliano, per me va bene. Già aumentato, sei 7 piena adesso, avanti Massimiliano. Aspetta, Massimiliano, così è acceso, guarda, fa la cortesia, fa il segnale, ma il segnale solo, guarda, così è attaccato, e così è attaccato. Fai da 9.10 a 9 quasi a 20. Aspetta, così com'è? 9.10. Adesso attacchiamo, e così 9.20. Cappa già. Allora un problema di capi. Aspetta che faccio un'altra prova, Massimiliano. E io, andavo. Però sembra leggermente alto di radio, no, ma si vedrà. Lui ce l'ha così, tutta manetta, se no lo rintendete. La sovramuta, il rumore che c'ha intorno. Eia, chi mi ha chiamato, avanti. Ancora c'è l'alternata? Sì, alternata manetta però. Vabbè, a dopo, ciao. Eia, ciao fra. Gappa. E tu Daniele, non sei uscito? Non so se dopo esco io, ma si vediamo. Ma usaccio, relax totale. Ehi, mi faccio una passeggiata e poi. Domani la sveglia, 5 meno un quarto, e tu baghettato. Ma sì. Ehi, ya. Vabbè, tu vedi la radio, siete colorati, guarda così, invece con te. Attaccato. No, non è cambiato, è uguale a prima. Preciso all'altro? Yes. Ok. Vabbè, volevo sapere solo quello. Poi la radio non lo so, sto forte. Mi abbassare un pelo. Abbassate, vedi. Ok, no, sto provando un 747, dai. Un 747. Sì, sì. E già va bene allora. Sì, sì, è un altro, è un M 200. Già funge. Vabbè, solo vedo l'altro non fa. Vabbè. Quello che ti dico. Non so che dirti, avanti Daniele. Cara, cara, dopo mando un messaggio al profeta, a vedere che fine ha fatto. Un po' di giorni sta disertando. Beh, allora mi ha mandato la stazione gratis e non è più entrato. No, sto scherzando. Oh, yeah. Magari sta facendo qualche cosa, boh. Oppure non ne ha voglia, non lo so, è partito. Da lei vi trovate i soldi gratis, sì. E beh, Pomponio. Se ne trovate, sì, quei soldi, meno male, è ora. Sono diventato ricco, guarda, la carriola mi sono voluto portare. Infatti già mi sto organizzando io. Per farmi cambiare i contanti, hai capito? Se no, sei fottuto. Oh, ioia. Adesso, il prossimo mese, aspettano gli altri. Ah, vedi, Modone Sciaffura. Va bene, vai, riprendi, ma ci vediamo. Ma io non parlate di queste cose che mi viene malumore. Accidenti. Ma che ti vede malumore? Così. E guarda che me, non è che abbiamo evitato molto la verità, in contanti. In contanti saluti, 100 euro, poi il resto bisogna mettere d'accordo con delle persone in modo che se vuoi fumare fumi, se no c'è il cannello a me. E conviene smettere di fumare allora? Te lo sono dicendo, appunto per quello. Io, mamma mia, come sto? Anda bene, veda. E allora, Antonio, che si dice? Che fine hai fatto? Niente, ho ritirato il soldo di riserva, ho ritirato, per essere sicuro, capito, per poter fumare. Tutti i sigarette te li hai presi, Antonio? No, veramente mi sono occupato il microfono e me l'ha dato. Il microfono MBP4, pagato con quella carta. E anche il CD5, quindi adesso mi piglio il barattino, quello e c'è 100 euro e me lo ritiro. Fai bene. Quello ci vuole adesso. Già c'è la uva, mi stava girando. Anche, no, va bene che voi tirate questa tanta cittadinanza, hai capito? Siccome lui fa l'imbragone lì a Lido, hai capito? Come vigilante. Non lo trovo, ma di uno, come fai caricato il vino agli altri, capito? E quindi ha giurito, fa una cosa, va a culo, tu quanto sei, gli ho detto. A me, i soldi mi hanno dato e quelli me li tengo, gli ho detto. Io sigarette non posso comprare, tu ti compri le sigarette, ti compri il vino, ti compri la birra, fai quello che vuoi, gli ho detto. A me non me l'ha fatto nulla. Oh, Gava. Io mi assento un secondo, sentiamo dopo. Va bene, Massimiliano, già siamo qua, fai pure. Vabbè, Massimiliano. Vabbè, Daniele. Ehi, a te. Per favore, cortesia, guardami questo segnale, un attimino. Vai. Guarda questo qua. Guarda, si è aumentato. Un pelo di segnale, la radio è aumentata, sì. No, ma solo la radio è andato. Sì, il segnale poca roba almeno per qua. Poi mi chiedi anche a Pomponio, che lui ha lo smitter più generoso. Aspetta. Ora. Antonello. Adesso sei 5. Aspetta un secondo. Aspetta, eh. Guarda così, Daniel. È uguale, stai accordando, no? Sì, però parlate una volta, se non vi capisco. Allora, guardatemi il segnale adesso com'è. 8:30 e segnale di 5 a bomba. Perfetto, chiaro. 8:30, guarda un po' ne si aumenta, che sei più lontano tu. E hai uno strumento magari migliore, guarda, eh. Guarda un pochino. 5, aspetta un secondo, mi sa che me lo siamo là, 2 minuti. A 5 cosa? Mi segnala radio 5, da 5 passa 7, aspetta un attimino, sono qua attaccato, mi tocca la gala stasera. Gala! Ma così com'è? Il segnale sei quasi a 6, la radio è fortissima. Ho capito, invece così aumenta il segnale, però diminuisce la radio. Guarda, se riesci a tenere questa radio così, col segnale di prima, va bene. Oh, guardami, in picchi, adesso. Guarda lo Smith, fermo. Ha cambiato qualcosa? Un pelo, sei quasi a 7. Quasi, e modulati 6-8. Guarda se sta aumentando. Ora. È un pelino, manca poco per arrivare a toccare il 7. Ora, e adesso, invece, guarda, ora. È sempre uguale, Etty. No, aspetta. Gava. Ora. No. Ce ne esci una questo cazzo a me. Ciao Gianni, un controllo, ora già. Buonasera. Non lo prendo gli occhiali perché sono sbagliato. Beh, fa la cortesia, sto facendo una prova con una segretaria, non so che cos'è. Di qua se non vai a prendere. Vabbè, però sono sempre, Guarda se mi puoi attenuare, così almeno te ne accorgi anche di più. Provo. Guarda un pochino. Ha cambiato la decola già? No, adesso. Così è attaccato. Guarda, 1, 2, 3. E così è attaccato. 1, 2, 3. Ha cambiato qualcosa? Sì, da 1:30 a 3 ha attenuato di tutto però. No, non ho capito. Allora, da 1:30 va a 3, ha attenuato completamente. Mettimi a 5, così almeno vedi un po' più, senza che io moduli le parole, prova a mettermi a 5. Così se non fai 20, prova. Attenuami ancora un po' di più, mettimi a 5. Sì, Dino. Hai fatto già? Sì, a 6 a 5 da poco fa, dimmi. 9:20 a 5. No, ascolta, prova a attenuarmi, attenuami a 5, mettimi a 5 tu, con l'attenuatore. Segnale 5, eh? Ok, guarda se cambia, Non ho sentito il passaggio, secondo solo che me l'ho chiamato a cadere. Ok, guarda, così è zero, senza niente. Guarda un attimino. Così ho aumentato? No, qua aumenta pochissimo, proprio un pelino. Ma non devi tenere conto di quello perché non siamo molto vicini. Vabbè, e la radio ha cambiato? Lui l'ha aumentato. Ho capito, ma questa è la torce, ti dà fastidio. È vicinata, ma fa, devi provare con qualcuno che è lontano. Non aumenta un cazzo, dopo. Gli ho messo la foto qua. Infatti volevo provare anche con te, ma... Sto facendo con il... Guarda, io sono staccato con il Lincoln, Quanto che un segnale mio solitamente. Guarda, è attenuato, ciao Gianni, è attenuato... Vai, da 9.5 a 9.8, ma cagato. Guarda. È così attaccato, No, forse è del piccolino, non serve... Ha avuto problemi. aumenta, ma pochissimo aumenta. Ciao Claudio, buonasera. Ciao a tutti e due, rimango in ascolto che sto guardando così al PC, ci sentiamo dopo. È poco aumentatino, pochissimo rispetto agli altri che hai, quello aumenta poco. Ma quello che cos'è? 747? Non so che linea è, comunque aumenta poco, dai. Tino. Già. Un attimino, stiamo guardando una cosa, Vai pure, queste sono qua. Guarda, adesso? Si è agganciato adesso. Guarda un attimino, aspetta. Staccato. Non farlo staccato, attaccato. Vai, questo è staccato. Adesso è agganciato. Qualcosa in più aumenta così. Vabbè, non è mai differente dall'altro, però là, ho capito. Beh, su questo è un altro lineare? Sì, uno è un LM, l'altro è il 747. E questo aumenta di più, questo aumenta, vai da 9,5 quasi a 9,15. Va bene, ma mi devo allontanare, dai. Grazie, a dopo. Ia. Va bene. Invece questa radio com'è, Gianni, sempre uguale? La tua, la... E questa radio com'è, sempre uguale a quella che uso normalmente? Sì, sempre bene. Questa è un'altra radio, però sento che vuole mai un'altra radio. Che radio è? 590. Nuova di pacca. Ah, ma tu guarda, ne pigliavi più o meno. E chi mi figuri? Vabbè, la malattia è troppo grande. Quando vedo, me la fotte un destino, mando la foto. Ah, ma la radio. Che c'è qua? Chi sei, papà? No, sono Gianni, dimmi. Ma che è questo? Ma che è questo? Oh, il tema passo. Qua passo. E adesso, come è stato? No. No. Che cazzo lo vai? Allora, nei fili staccati, non staccati. Mangiati tutto il mio. Già, adesso è un po' comandato il volume, ti avrai bene, dicevo che il volume è troppo basso io forse, perché Claudio non ci fa cacato se lo lascio a... Mamma, mi metto un microfono adesso. Adesso. Sì. C'è una bomba. Che altro è? No, trombetta, non così fa. Sì, sì. Fate la sette. Però così non è. Vabbè. Un altro microfono da buttare. Butta e compra un nuovo. E cazzo, questo non si ha. È cadetta. Master Producer. Yeah. No, ma non c'è la configurazione del Master Producer. Ma barbarità. In questo mi stai usando il Master Producer. Ehi, ma c'è qualcosa, mi è successo qualcosa, mi è successo. Perché prima non usciva, non ci va fuori. E lei qua c'è? No. Non c'è neanche lei. Si può. È a metà lei. No, adesso c'è, adesso c'è. Adesso c'è. Vabbè. Grazie già. Già, grazie. E io ho detto. Per me le radio ormai sono una cosa normalissima. Sono lì e basta. Appagato. Deve essere fatto qualche componente lì. Non è possibile, ma sta così un po', dai. Non si sente il microfono pompato. Ma con chi stai parlando? Con Franco, che c'ha il microfono, il Master Bruce che sta provando e praticamente non esce come dovrebbe. Perché lui era, no, non esce per niente. Basso basso, è bruttissima la modulazione. Non so che si va così. Vabbè, va. Ciao Claudio, buonasera. Ciao anche a Gianni. Ciao Fraccia, sto uscendo molto molto male. Va bene, beh. Rimango in quel Rix già un attimino, sto guardando una cosa al computer, io riprendo dopo. Ok? figlio. Ecco. Perché è ancora male tu? Sì, per me sì. Usiamo tutti e quattro, lo sto usando adesso. Sì, tutto il passato, modulazione non ce n'è. Sembra un microfono normale. No, è più quattro forse. L'altro non lo so. È pulito. Che pulito è, no? È bella la modulazione. Chi è che ha detto che è bella? Io non ho detto, non ho detto nessuno che l'ha detto. Ho detto, l'altro non si attacca. Sembra che sia attaccato, ma non si è attaccato. No, non ne ho le mie attaccate qua. La radio è come si copre sul linea attaccato contro Cuba, la stessa cosa, non si sente chiara. Tutto è impattata, c'è il bisciacolo, non c'è amplificazione, non c'è niente, sembra un microfono normale. Ecco, tu? La radio. Prova a cambiare la radio, ma anche gli stessi microfoni a vedere. Per farlo, gli attacchi gli stessi sono. No, con gli stessi. No, dovrei cambiare anche l'antenna. Farlo, ascoltiamoci questo coso. Magari è la radio che non supporta quei microfoni. Antonio Rilero, ha sentito la mente? Sono qua, Antonio. A qua? Guarda qua, sei andato, mi ho dato una radio a provare. Vabbè, sono ancora che mi sto collegando un punto, Gianni, e adesso com'è? Prova a fare un passaggio. Capo, dai, vieni a vedere se questo ha cambiato. Sì, ha cambiato e come? La radio è sempre la stessa, il zinco. E solo il microfono ha cambiato. E questo qui va, va. Questo è l'MC60. E dove l'ha attaccata sul campanato? Sul linco. Come lo fa andare con la batteria? Capo, guarda che adesso ho provato una toccata. Parti in tarra tanto che si toccherà a Bahia e nella Bahia che le parti in tarra. Capo, cos'è che avevi detto? Ho detto la batteria che metti per farlo andare. Capo? Non pensavo che avessi la presentazione anche con lui dalla farà. No, questo devi mettergli le batterie. Devi mettere. Esce meglio questo qua, no? È chiaro. Sì, ma per essere un MC60 sarebbe sempre scarso. L'MC60 l'ho sentito sempre per un po' male. Sì, è più chiara la radio, ma non è come dico io. Non ha processore, Gianni, il presidente Linco. Se io ti stacco il processore, lui sta uscendo così, la stessa cosa. Così sta uscendo, più o meno così. Non ha processore il presidente Linco. L'MC60 va sui K perché c'è il processore che spinge. Così è senza processore, e questo è un digitale. E così c'è il processore inserito, quindi. Adesso è migliorato. Capo, dai. Un attimo, voglio mettere quel microfono. Claudio, di non volare a terra, mi sta prendendo, invece sei qui. Cosa già? Ho detto di non volare a terra, ti sta prendendo con le radio, di nuovo sei qui. Su eBay, no, su eBay queste radio. Né una nell'altra su eBay, ma stai scherzando? Queste sono comprate da rivenditori autorizzati normalmente, no? È una delle ultime app della Kenwood. Non è tutto digitale, non ha niente a che fare con su eBay. Non ho mai comprato su eBay. Assolutamente. Non ne ho, non c'ho neanche l'account io su eBay. No, su eBay. A farmi voti. Assolutamente no. Già hai comprato su eBay. Ti ricordi qual è il radio che sono arrivati e poi non sono mai arrivati, 200 euro, che è quel negozio che fa l'IVA, che fa dichiarato fallimento. Infatti è proprio da lì che non voglio comprare più nulla. No, già. Questo non sono arrivato a comprare su eBay, no. Questo non arrivo a comprare. A parte il fatto che questa è. Di Sassari, non è né su eBay né niente, però è comprata nuova dal negozio, capito? usata dentro la scatola, ancora in garanzia. No, ma comunque se qui ci sono anche i venditori, non è che prendono solo roba con una mano, l'altra mano. Ci sono i venditori che prendono la roba nuova, ci sono anche che tutte cose, basta che tu cerchi il venditore e trovi anche quegli apparecchi. E vabbè comunque. Visto che chi c'ha la passione casca, adesso anche con le antenne, vedrai che ti piace in campagna. Scusate, chi è? Io, mi senti? Voi, passa un attimino, dai, sposta un attimino per fare prove, dai, ci spostiamo un attimino sul 20. Bene. Scusate. Niente. Ho detto, vedrai che con la passione che c'hai, ti piace l'antenne anche in campagna. All'inizio guardi i vestiti, poi non ti danno più nulla. No, ma lì è diverso, già lì ci vanno le filari, no? Non stai scherzando, lì ci va uno scavo, ci va traliccio, è un altro sistema, no? Non è come qua. Qua il sistema è quello a parete che aveva Fabrizio, quindi è stato facile montarlo, se no non ne avrei mai montati. No. Sicuramente l'attività la farò, però a livello di filari, capito? A livello europeo, non mi interessa avere l'impianto che ho qua. Sicuramente. No, ne ho preso due nuove, no? L'altra è un po' vecchiotta e insomma, ho voluto rinnovare un po', ma niente di che, non ci sono problemi. Va bene così. Ok. No, sto guardando che mi serve un'antenna VU. Un'antenna VU che devo mettere. Nuova, capito? Stavo guardando quale prendere e basta. Ah, io già c'è imbarazzo la scelta. Ma per metterla lì o per metterla in campagna? No, per metterla qua, sotto alcune antenne vecchie che c'erano, anche se erano funzionanti, però insomma erano già abbastanza vecchie, adesso a tempo buono rifaccio il parco antenne, abbasso il sistema, tolgo le antenne che non servono e metto quella che praticamente uso, dai, tutto qua, però me ne serviva un'altra bibanda, stavo guardando cosa prendere, non grande, non una media, dai, non come questa che ho che è 7 metri, una media, una piccola. Dai. Sempre esclusivamente Diamond e usabili antenne di base, che no, ci vogliono antenne buone qua. Qua, da tutte le parti, per noi ci vogliono antenne buone, antenne che resistono al vento, che non si spezza, la piccola Diamond è la numero uno. No, vabbè, io sono da un po' che ero dentro a vedere il radio, per questo mi va a Ma cosa, c'è sta cervicale, mi sta ammazzando già, non sto andando da nessuna parte, cervicale è un bel male mi sta facendo, allora che cambi il tempo, che ci sia più caldo, allora mi passa, ma c'è troppa umidità, freddo, mi ha preso un bel male, fa male tutto il collo, tutta la testa, dietro, la schiena. E non so, ho avuto anche la cervicale, vedi anche il doppio, quando si sdoppia la vista, ti viene capogiro. Ma io sto camminando con la cappella, non riesco a appoggiare la gamba in terra, che mi ha fatto di comare il ferro. Poi ho fatto due macchinettioni già, non mi hanno fatto un capo, se no non mi hanno furia di occhi, pomata, volta le due, eccetera, eccetera, ma... Non sarebbe del miglioramento? Vedi come gli di tutto, non sta migliorando niente. Sì, sotto gli occhi. La mattina mi alzo, a nausea, a capogiro. Ma la rottura di balle che non ti dico. Lo so, l'ho avuto anch'io. Infatti da quando ho mollato la moto non me ne è più venuto. Non voglio fare le corna, però mi sa che era la moto tutto che me la faceva venire dall'ombrello. E con tutto che io mettevo quella cucchia tipo passamontagna, sotto casco, eccetera, eccetera. E niente, però non prendo passare con la testa. Quando viaggio d'inverno inizia la ragione. Sì, forse sia anche quello, però io vabbè, molto lo sto usando poco ancora. Qualche giretto così in città, niente di che, però la sto usando poco, perché c'è freddo e poi te l'ho detto, non mi fa male la cervicale. Infatti adesso poi cambia il tempo, ma vedi oggi c'è maestrale, c'è freddo, sono uscito fuori a ritenere roba stessa, c'è freddo, oppure c'ho la felpa, c'è freddo, cioè non sembra aprile, certo fa un po' maggio, no? Prima gennaio. E io se fossi la così vado in quel centro che c'è di Ancona, centro commerciale di Messone, c'è un centro dove c'è riabilitazione, praticamente Viviana l'aveva fatto lì per il braccio perché non riusciva più a muoverlo, mi ha fatto bene, acupunture, tutte queste cose qua ci sono. Sì, e che ce l'ho mai? Ora gli ho fatto il bruio per la spalla, adesso lo sta facendo. L'attività reumatoide lo sta facendo mia figlia, fisioterapia, capito? Il tifico della sinistra, ora deve fare 6 o 7, una cosa del genere, già lo so, no, io appena cambia il tempo, appena sto un po' bene, andiamo con mia moglie a, molto probabilmente primi di giugno, così a metà giugno, a San Saturnino vado, va bene tutti, alle terme, faccio una settimana alle terme, vediamo se riesco a mettermi a posto. Sì, ci sono anche qua le terme qua vicino. Sì, chissà, e lì sono dei flussi che fa bene veramente, perché il calore fa bene. Io me ne sono accorto perché stamattina mi sono stancato, perché questa gamba mi si stanca subito, che mi fa male. E se non c'ho la stampella mi si stanca subito, e mi sono seduto sul muletto e c'era il sole che batteva e non tirava a vento. Beh, lo sai che mi ha ripristinato questo sole che ho preso, sono stato una ventina di minuti, era piacevole. Certo che sì, il caldo, il sole caldo, io l'anno scorso sono stato molto meglio perché ha iniziato le belle giornate di questo periodo, i primi di aprile, capito? Adesso cioè, siamo a fine aprile, c'è un freddo allucinante, quando porto il cane sto uscendo col giubbotto invernale, roba da matti, e sono le 8 di sera. No, Valledoria stai dicendo, no, non sta funzionando bene Valledoria. Assolutamente, non ci sono servizi, non mi piace. Non mi piace, conosco molto bene l'impianto perché ci ho anche lavorato, nel senso che ero vicino e ci andavo quasi tutti i giorni, perché lì c'è un nostro impianto proprio prima delle terme, capito? C'è il sollevamento del consorzio di bonifica e quindi andavo lì a prendere letture, non sta funzionando. Non ha mai funzionato, hanno provato a rimetterlo in sesto ma non sta funzionando. Va bene tutti, cazzo. È come che vai a Sardara. Andare a Sardara è troppo lontano. No, non mi va. Bene tutti, è vicino e si può fare, capito? Però sono degli impianti, manca paragone con quello che di Castelloria. Lo sai dove c'era, non è stato me, in caso c'era l'acqua che era a 100 gradi. Siamo andati a Gaza, al lago di Gaza, con questa imbarcazione si portava a vedere il lago e poi ci ha fatto vedere a 100 metri di profondità che c'erano le acque termiche, proprio che acque che uscivano al mare. Sì. Sì, ma anche lì a Castelloria l'acqua è molto calda. L'impianto funziona al 70%, l'unica cosa che non va sono i servizi, non è mai esploso quell'impianto, non ha mai funzionato bene, capito? Se no, vista la vicinanza si poteva fare anche prima, però lì a Benetutti è tutto pieno e quindi mi hanno detto tra i primi di giugno e metà giugno si potrebbe fare, capito, una settimana. No, vediamo. No, sto un bel matto, fa male molto la schiena, ho bisogno di rifare alcune cose, capito? Mi ha detto anche di andare in palestra, di fare ginnastica, ma se mi ero fatto anche un movimento, ha fatto ginnastica a voce. E infatti, ho fatto la schianciata, non va via, mettermi di schianciata, e faccio poi fatti anche. Eh beh, lì sì. Mi ha Gianfranco, aspetta. Ok. Allora? Allora? Questa va meglio? Questa è una bomba. Vabbè, questa è la radio che parlo sempre. Stavo provando dei baracchini, dei microfoni, stavo provando a vedere se i microfoni, quando li tieni fermi, cari, per esempio gli Alzheimer. E i componenti si rovinano, c'erano dei componenti all'interno piccolissimi, magari ha fatto qualche componente e non funziona per quello. No, sai cosa ho trovato? L'ho aperto, non l'ho mai aperto quello lì, sta aperto, da quando l'ho preso. Qualcuno ci ha fatto delle saldature e dentro c'è, come gli cadeva lo stagno, sulla scheda, la rilasciava lì. E io li ho tolti a pezzo a pezzo. Prima non se ne parlava, prima di togliere quei pezzi di stagno, come lo accendevo anche al minimo, facevo che cavolo. Poi gli ho tolto lo stagno, gli ho tolto piano piano con una pizzetta, tutto bene, l'ho pulito e gli ho isolato anche due fili. Andava un po' meglio al minimo, andava. Però come lo mettavi più della metà, non avevo rumore. Perché ha fatto il ponte da una parte all'altra della pista. E praticamente con le soldate le ho tutti i punti. Cioè, le ho visto le piste e ha trovato il ponte. È per quello che ti fischi. Guarda che invece a qualche altra pista, magari che è collegata con la soldata. E chi ne... Capo. Adesso l'ho chiuso, adesso non la fusti nuda, non la quando non voglio, allora che non c'ho, mi sento di non avere, di non fare niente, lo riapro. Adesso non voglio. Ok, mi è sembrato sentire Daniele. Daniele, tu sei avanti. Scappa, ci sono. Che fine abbiamo fatto? Mi hanno chiamato un attimo, mi sono dovuto allontanare. Che ti abbiamo chiamato? E non ci... Va bene, dai. Questa volta è un problema, ma la prossima volta si ricomincia. Va bene, metti il libro nero. Anda bene, Mela. E tu microfono da provare, non le hai, Dani? C'ho un 5 su e un expander 500, ma non ne ho voglia arrabattarmi già. E l'expander 500 non sei usato? No, è su, parcheggiato nel mobile. Funzionante? Mi sa di sì, era funzionante, se... sì, anche il più 5 era funzionante, mi sembra di ho tolto la capsula, ma ci dovrebbe essere. Perché stavo adattando, non mi ricordo anche il radio, era un periodo che adattavo, facevo. Capito, prova a destra, prova a sinistra, ma forse c'è la capsula, devo guardare. Ma parli dell'espander 500? No, del più 5, al 500, all'espander 500 chissà non gli ho fatto mai nulla. No, l'espander 500 volevo provare con questa parata, ma non andava. Ma devo guardare già, devo guardare se è tutto in ordine. Che attacco c'ha? Quello c'aveva gli attacchi forse per il DAC, che sono al contrario del 48. Quindi gli stessi del Galaxy. Mi sa. Sì, lo dico per sicuro. Perché adesso non lo ricordo se era per un momento più anche perché il radio lo usava, forse per il coso era, per il DAC. Allora, il 48 ce l'ha sopra, quel di sopra li metti sotto e quel di sotto li metti sopra, così è il Galaxy. E allora avrà quegli attacchi al contrario del 48 sicuramente. Cava, cava. Che la spada 500 fa un pappa, già funge, ne ho visto da poco una in vendita, però non mi ricordo quanto ne volevano. Ma toccavola ancora qualcuno ce n'è in giro di questi microfoni. Sono i 20 CD, capito, che li vendono, voglio, fanno, che li vendono sparito. Però è sparito, non l'ho più trovato. Va bene, che c'è Franco anche. Riprendi Fragola, buonasera. Ehi, hey, cappa, ti ho fatto entrare io, non ti ricordi. Ciao Gian, mi ha ascoltato. Cappa, ehi, microfoni, non ne comprare molti, se poi si rovinano ce ne devi buttare. Oh, finitemi, l'ultimo che ho comprato è questo. Dopo anni ne ho comprato ancora un altro di microfono. E che microfono ti hai preso? Questo Midland nero per il 48. Ma Midland è quello normale? No, è Midland originale, però è nero. No, io ce l'ho un Midland nero, costava 12 euro, mi pare. Guarda, il 4190 è quello nero che sembra il CTE. E allora come quello che c'ho io. A provarlo su questa radio a vedere cosa funzionava, capito? Perché l'altro era troppo chiuso con l'originale. Questo va bene. Gara, va bene. Così mi dicono tutti, questo è l'unico che va bene. Anche perché io ho una voce sottile, non c'ho di quelle belle grosse a farlo girare, capito? Allora io ho la carcassa Midra per l'interno CTS. Va bene, basta che funzioni bene, già tutto il resto è optional. Funziona, sono quelli identici, identici anche di casa, uguale, cambia solo la modulazione. Rende di più quello CTE, capito? Per quello l'ho messo nella cassa Midra, perché quello CTE era spaccato, ed era caduto in tasca, era spaccato e non ho messo la cassa Midra. Cavagava. E la scheda? Cosa c'ha di diverso? Non hai guardato? È tutto uguale secondo me. Non lo so il perché va meglio. Non lo so il perché. Forse è la cassa. Comunque gli incassi sono tutti uguali. È tutto preciso. Perché visto così a occhio è identico, forma, grandezza e tutto quanto. Poi magari c'è magari qualche componente che fa cambiare qualcosa, boh. Va bene, riprendi Fra. Oh Daniele, ma lo sai che ne ho fatto uno io di quelli che hai preso tu, di quelli Milan, ancora c'ha il coso attaccato, il nylon attaccato c'ha. Ecco qua, me l'avevano dato un camionista prima di andarmene dal lavoro, me l'aveva regalato. Cavolava, ma quello che stai usando adesso è? Quello con la scritta Midland, è nero, nero che c'è Midland, prima c'è un coso rotondo, il mondo dovrebbe essere, e la scritta Midland, con la R. K, quello che ho io è identico, il 4190. 4190 costa, alla faccia. No, è la sigla, io l'ho pagato 15 euro, l'ho pagato la GBC. Allora non è costa tanto. C'è un nuovo, quanto penso che tu l'hai detto, ma mi sembra che ne ho anche io uno di quelli della Midland. Infatti mi aveva dato un barattino piccolino e cose, quel microfono, che non sapeva cosa farcene, che anche lui stava andando via. Cava. No, già funziona bene questo Fra. Funge. Cazzo, va bene. Avanti già. Io anch'io ce l'ho con lui. Praticamente ne ho comprato due di quelli. Perché mi c'era rotto quello CT, c'era spaccata la cosa, la carcassa. Che caduta in terra si è aperta. E ho messo la roba della CT dentro quello. Non ho dovuto saldare il prodotto duro, ne ho messo là. Oh già, ma quello va bene anche a quelli modificati, no? Va bene soprattutto a quelli modificati, tutti rimangono vita. Andiamo a fare una foto modificata. Capo. Infatti mi ricordo che io li vedevo, chi ci aveva i modificati, ci avevano tutti quel microfono lì. Anche questo è Fra. Ci chiedo, mamma. Questo c'ha l'elicottero. Il mio aereo. Io c'ho l'aereo del Jumbo 747. Ce l'ho pure io l'aereo del Jumbo. Hai visto? Abbiamo una flotta di aerei tra un po'. No, io c'ho il 737. Fra, ti devi adeguare la flotta aerea anche tu. Oh, vabbè. quelle sono radio. Ah, sai già, voglio far guardare un camionista modificato. Ma ti trubbeci la giubata, vai a te per dire, vai. È andato via. 500. Così il prezzo ho pagato 450. Ma io ho trovato uno da poco che mi è apparso su eBay 250 tutto modificato. Vabbè, c'è a vedere che modifiche aveva però. Nessuno in te, scheda eco, bip, canali, VAT, tutto. Vabbè, ma quelli che sto dicendo io non sono così, no? Secondo me Gianni già li conosce perché ce l'ha. Dipende da chi trovi a quanto ne vuole fare alla fine. Che poi mettono gingilli strani, fesserie e te lo fanno pagare 10 volte tanto. Capo, io non credo io. Vabbè, ma non siamo lì. Sono finiti i tempi per comprare baracchini. Ci diamo le radio più serie adesso. Ma neanche radio serie, niente. Quando si sfasciano, li mette da parte, ammucchi, e poi l'antenna e via. E poi come ho fatto io? Solto tutto, ho venduto tutto e tutto l'ho rifatto da capo. Come farò? Io ne ho 5 da demolire. Penso che mi demolisca prima io di loro. Capo. Guarda, Daniele, io ho fatto lo stesso nel 2000, ho venduto tutto. E poi mi sono dovuto ricomprare tutto da capo. Così è, ho detto vabbè, mollo tutto, tanto. Accendeva, non sentiva nessuno, ho detto, non c'era neanche tempo. Ho detto vendo, prima che se lo porta via gli do tutto, mi interessa. E così ho fatto e poi ho acceso questo, di nuovo ho fatto da capo tutto. Ma io accetto, lo ricontrollo. Aio Tino, cos'hai combinato? Non so dove la torre controllo, all'aeroporto forse. Ah, non c'è. Allora va bene, dai, pazienza. Cos'hai combinato te? No, vabbè, buonasera. No, volevo vedere un pochino da Claudio, vedere quanto arriva Vanturi. Antu, avanti. Sì, sono qua, mi ascoltate. Aguglia, Santiago Nove, Radio 5, buonasera. Buonasera. Ciao Antu. Ho detto col microfono. Sì, già, col microfono. Vabbè. Ne hai messo 3 e 3. L'ho messo? 3 e 3, per l'ultimo. 3 e 3, sì, 3 e 3, sì, bravo, 3 e 3. Però si sente un leggero fischietto, una specie di fischio finale. Non so se l'ho montata. No, è come che sta soffiando il vento. Sì, cioè la sta posata presso il rumore della stanza. In mia lontana non si sente, però non possiamo parlare molto perché sennò poi vado a muovi che mi ricordo di studiare rumore. Ah, io provo, vai. Va bene, va bene. Posso provare? Provo, vai. Allora, così è normale. Passaggio normale. Così è più che normale. Uno normale e uno senza normale. Così è più normale e così è normale. E così è normale e così è più normale. Allora, qui a Sorso da 9 a 9.10 con saturazione. Bene, lì sta saturazione. Poi? Poi qua da mie parti, ciao Antu, ben sentito, passi da 5 a 7, è un pelo di saturazione ma poca roba. Vai Gianni. Ma Gianni gli ho bruciato la parete. No, io non stavo guardando, con la vita prova tu. Sì, vedi un po' già, guarda. Aspetta che cerco di accordare il massimo che posso fare. Così è on e così è off. Così off, così on. Da 9.15, 9, no, da 9.20 a 9.30 passi. Vabbè, vai, 10 minuti, male. Tanta vecchi, cosa dici? Qua un po' in saturazione, è logico che ce l'hai, Siamo attaccati. Vabbè, non penso con te, non te l'ha portata. Ah, va bene, va, mi crepi ora, Sì, però che non fa neanche cordura. Allora spengo tutto e vado. Per cassamento, adesso ogni tanto lo passo io. Un attimo, Frank. Antonio, che apparato le ha attaccato? Sulla 78 Plus, apparati, ho fatto una più alti dei cracker. Ehi, ehi, avanti, Frank. Capa Giancarlo, buonasera, cordialità, Gianni doppio luna, Sassari, avanti. Sì, ti ascolto, Santiago 4, la radio 3, dai. Siamo in compagnia di Tino Muscolo, di Alto di Riserva, e poi di chi? Di Franco di Sorso, e poi di... Vabbè, non mi viene il nome, poi fai girare. Aspetta, ciao Giancarlo, non so se mi ascolti, Tino, con la buonasera, all'accordo, ci ho bazzicato qualche volta. E anche io andavo a fare l'accordo. C'è sceso. Non mi ascolti? Vabbè, adesso mi ascolti. Capo, positivo. Ciao, Tino Muscolo, da Sassari. Saluto me Gianni, quando lo vedi. Gianni di Rio, vedi che hai fatto il nome io. Quello è il fratello di mia cugina. Sì, il fratello di tua cugina è altro. Allora parlaci tu. Nominato tu è il fratello di mia cugina. Ah, ho capito, vabbè. Davvero, è il mio collega lavoro. Come Anne? Sì, quelli che hanno nel rusco, quello così lì. Sì, sì, vabbè, Gianni ha lavorato con me per 25 anni. La sorella è sposata con mio cugino giovane, Torino. No, no. Come no? Sì, ha sposato la vita. E Torino ricordiamo da qua. Come l'uccello. Vabbè. Vabbè, scusate, ciao amico della corte, se mi ascolti, io sicuramente io non ci arrivo. Sì, ciao, me l'ha ascoltato, non te lo riserva da questa parte. E vabbè, l'importante è riuscire a farsi sentire. Ecco. Allora un crepo, caro Antonio. A parte il breco, però buonasera. Buonasera a tutti da questa parte, un ragazzo di Ottafa. Buonasera a tutta la ruota. Ciao Gigi. Gigi, buonasera, ben entrato, vai. Tutti un ragazzaccio a raccogliere gli Ottafa, vai. Ciao Fra, buonasera a tutti, dai, non so chi c'è a ruota, ho sentito, acceso così, vi ho sentito, dai. Ho sentito anche questo Giancarlo dalla corte, ma è sicuro che è alla corte che non è qua a Ottafa, perché da me fai 9.25, o forse perché c'ho l'antenna puntata lì. Comunque arrivi 9.25 a me, forse neanche mi ascolto a me Gianni della corte. Buonasera Gigi. Ciao Gianni, buonasera a tutti, ho detto io. Ma forse questo Gianni della corte, io lo sento fortissimo qua, proprio 9.25. Non si chiama Gianni. Come si chiama? Giancarlo, anzi Giancarlo, giusto, Giancarlo. Giancarlo. Ma cosa corre via? Ha scaricato le pile del portatile. Ciao Gigi. Ciao, che è Daniele questo? Capa Rogero. Ehi, qua siamo a scaldare un po'. Non so se lo sta uscendo bene, ma già è tutto centrato qua, sì. Mi sembra di sì. 3 watt va benissimo. Anda bene bene Gigi, tutto Rogero qua. Sì, io sto usando 2 watt. Ciao Fra, ti ho detto ciao poco fa, Fra. Dimmi Daniele, stai usando? 2 watt. Cappa, 2 watt va bene. Antonio è rimasto in riserva. Antonio, sei un po' saturo anche da me. Dì la verità, siamo lontano. Arrivi 9 più 30 a me. 9 più 30 quando col più quando metti il più, però è saturazione. Sì, Roger, ciao, ben ascoltato, aspetta, abbasso un po', vedi un po', così si è migliorato qualcosa. No, forse, non so quanto sta entrando l'ingresso di quell'apparato, quanto sta entrando l'ingresso, però non è... Allora, radio, voglio dire, c'è perché c'è quando attacchi, c'è un bel segnale, però si mangia un po' di saturazione, capito? sì, però l'ingresso è falso. Sarà una parola che non ha fatto fare, però è sotto. Non ho perso. Niente, adesso ho passato un po', però non so. Sì, ma se, ascolta a me, se questo coso tu lo puoi puoi abbassare la gradazione, lo puoi abbassare ego, infatti, non del baracchino, dell'altra cosa. No, questa è la sapienza bassa, ho due possibilità, bassa o alta, tu altrimenti spenga. Allora, aspetta, adesso qui sei tu bassa? Sì, adesso sono in bassa potenza, sì, comunque c'è poca differenza, eh. Allora, in bassa potenza sei 9,25, capito, 9,25 e la radio è bellissima. Ah, ecco, adesso vado bene, bene, come la sapessi. Da me qua a Ottava e poi a Sorso, chi c'è vicino non lo so, vede un po' Gianni doppio nuda perché sei vicino. No, sono più vicino a Sorso io che a Gianni, in teoria, in linea varia, quindi poco fa Sorso mi stava aspettando male. Da me è più chiara, ma non è chiara chiara, è un po' mangiata, appena appena se la mangia, ma meno di prima. Ma comunque io può andare così, dai. Antonio, a me come mi stai ricevendo di segnale adesso? Già, io non ti posso dare un rapporto di segnale perché c'è una smitterina di quelli a letto, qua siete, quelli che sopra le 5 sono più tanti 9,20. Ciao, interessante, e funziona, dai, Tino, da te come fa? Io metto di chiudere la finestra che lo vedo facendo le mosse strane. È attaccato a me, Antonio. Che vai, guarda, faccio il bravo. E allora c'è attaccato a te, devi scappare da lì tu, perché ti supera. Lo so, se gli ho dato per mettermi importante, perché non avevo avversari. Infatti. Ciao Gigi, buonasera. Ciao Fra, è della testa che ti saluto. Non ero entrato ancora io, E poco fa non me l'hai salutato tu? No. Allora ho sbagliato, aspettavo eri tu. No, non ero io. Non ero entrato ancora. Infatti, Antonio Riserva adesso sì, si è abbassato un po', però è sempre leggermente saturino. Allora, qua va bene adesso, prima no, adesso va benissimo, però è lontano da me. A me arriva benissimo perché è lontano, così come adesso, però ma cosa è abbassato? Di poco si è abbassato, perché 9,25 a me mi arriva, su questo baracchino, poi non lo so io se questo è perfetto lo smitter, dai. Però vedo che è più alto di tutti gli altri come segnale quando attacca. Lui supera Gianni, supera forse a Tino, no. Tino non lo controlla. Prova a tu a vedere, fare un passaggio a vedere. Tanto gioca in casa lo stesso, MGG. Quasi 9,30 che tu mi arrivi. Sono piccolo basso e nero io. È positivo, dai, positivo. Stavo sperando tutti. Sono di 44. Aspetta, scendo l'altro, Gigi, mi dici come va l'altro, aspetta. Gara! E come mai questo periodo di assenza, Gigi? Non ti abbiamo più sentito la domenica, è solo che è entrato. Oh, Gigi, no? Poi ti rispondo già. Provati. Guarda, questo è l'altro, Questa la radio è bellissima, però è leggermente più bassa. Sì. Questo è 48, quello mi avevi fatto fare tu, ti ricordi? Questa è una bella radio questa, io pensavo che era una radio più professionale, lo sai. Pensavo che fosse una radio più professionale quella lì, lo sai. No, questa è la radio che mi hai fatto fare tu, però ho abbinato il più 5. Ma va bene, cavolo, sembra una radio. Non pensavo che fosse un baracchino, eh. Troppo forti siamo, ok? 5 watt, cos'era di più? Sì, ma quello non c'è la regolazione dei watt, non ce l'aveva, mi sembra, quello è diretto, no? Questo è. Non so come avevo fatto le cose, forse da un watt su. Ma quello è 10 watt, mi sembra che a 10 watt è quello lì. Aspetta che ero staccato, guarda un po', migliorato. Stesso segnale di prima. Aiutato però, adesso aiutato con 747. Vanno bene quelli lì, vanno benissimo quelle linearetti lì. Va bene, dai, fate girare. Avanti, doppio. Hai visto che Antonio ha passato le orecchie? Ma non è più nessuno. Gianni! Ti lasciatemi sistemare la situazione. Baba! Sto svegliando qualche dorme. Sto cambiando radio per vedere come va questa qua, se è sempre limpida. Gianni, vai. Adesso mi sì, ne approfitto e ti faccio sentire anche Lincoln. Buonasera a tutti, Gambi. In fase di combattimento ti sei messo già? Adesso chiudo. Ecco qua, Gigino, questo però è diverso apparato, è normale. Prova. Sì, ma stesso microfono però stai operando. È un similare, è un gemello. Vabbè, c'è qualcuno che ha parlato sopra, stava parlando sopra. Ho detto, sempre più 5 c'ha il microfono. Sì, è un gemello. Ah, ho capito, dai. No, è uguale, c'è la stessa cosa, è uguale a prima. Addirittura. E fa la stessa radio a me. Allora sono contento, che va bene così. Questo però è quello più basso, eh. No, però a volte c'è qualcosa sottofondo, ho capito, di... No, l'altra era più chiara, questa però c'era la tonalità è simile, però l'altra era molto più chiara, Tino. L'altro microfono lo faceva molto meglio. Ho capito, ho capito. Va bene, ma era giusto per mettere in movimento anche questo. È positivo, positivo. No, però c'è, quando lo schiacci c'è un fa una specie di rumorino di netto, poi lo perde, però non ho... No, l'altra è molto migliore, dai. L'altra girava meglio. Sì, la radio adesso com'è che l'ho chiusa? Ecco, un attimo. Oh, scusate che devo mollare, che mi è arrivato gente. Ci sentiamo. Ciao Gigi, ciao a tutti, dai. Se ci siete, a dopo. Riprendi Gigi. Ciao, fra. Ciao. Altitino. Gigi, com'è questa radio? Perfetta, ottima, direi già, ottima. Però non mi avete detto nulla a me, io ho acceso un a caso. Se sta funzionando bene non lo so. Gigi, lo sai che se c'è qualcosa te lo diciamo. Sei sempre Gigi Vulcano e basta dire quello. È positivo, no, in realtà te non le accendevo, è sempre spente, capito? E non sapevo manco se funzionavano, però ho visto che funzionano sempre. Appunto ti ho fatto la domanda, solitamente la domenica entravi, invece ultimamente non ti ho più sentito, ho detto strano, Gigi c'ha altro da fare, avrà ammazzato qualche maiale, sta facendo le salsicce, E quello sì, quello già ne ho fatto parecchio quest'anno, le maiali, quello sì, già ne ho fatto, e quest'anno ne ho fatto un bel veramente. Maledizione, però non è vero salsiccia. Avete provato in due e non siete usciti. Ho detto, maledizione, però salsiccia non è vendere. No, vendere no. Poi quello che ho fatto proprio tutto a Ugelo, ho fatto stagionare tutto a Ugelo, capito? Adesso piano piano me lo porta, me lo scendo da Ugelo, i salami ce li ho già pronti. Coppa, ho fatto salami, ho fatto pancette, ho fatto guanciali, lardo, se ne va vita, caro cu. E ne ho fatto quest'anno, dai, ne ho fatto abbastanza. Già va bene, Gigi, tutta roba buona e sana, solo che solo loro fa ingrassare. Lo so, fa ingrassare, però... E dico la verità, oggi a pranzo ho mangiato due strisce di guanciale e un po' di fette di lardo pure me le sono mangiate, così come antipasto. Sparito, G. Cosa già? Sparito per un attimo. Ah, sono sparito? Non lo so, forse non ho schiacciato bene e si è avvitato, no, forse ho mollato un po' la portante, o il dito, non lo so. Infatti. Già è roba buona, là. Io l'ho assaggiata e quelle cose lì, queste latte sono buone veramente, anche il lardo è buono. Lo so, adesso io non ne facevo salami, adesso faccio salami, coppe, ne ho fatto diverse quest'anno, Le coppe già tutte mangiate, dico la verità, è buonissime le coppe. Poi le cose, faccio diciamo i guanciali, li faccio, quando dei maiali li tolgo, li faccio, Pacetti ne ha fatto lo stesso e l'altro giustamente l'ho conservato e ne ho... non tutto perché ne ho dato pure da cosa, però già un po' me lo per caso già ce l'ho. Sì. Sempre addietro, quando, anche quando si faceva il minestrone si metteva il lardo, quando si ammazzava il maiale lo puniva più in basso. Positivo, io ho fatto anche il sugo ieri, il sugo l'ho fatto con lo coso della puzza della salsiccia, che se quando me l'avevo fatto ai pacchetti mi avevo messo tutte in fritte. Intanto nel tocco e metto a scongelare faccio il sugo, ho capito, il sugo con la puzza della salsiccia, no? Sì, già sarà fragoso, e poi quando sai che le fate tu, che non ci metti conservanti, cose varie, tutta l'altra cosa. Sì, perché a parte che il maiale lo ammazzo io, e lo lavoro io, e lo, non è cosa che prendo così, che vado a prendere in macelleria, no, questo è il maiale che ammazzo io, e lo lavoro io, capito? I tuoi figli, il tuo figlio ce l'ha? No, ce l'ha Palmirio, io ho preso da Usero, vabbè, uno un maschio l'abbiamo preso, è stato da Usero grande, è pesato quasi più di due quintali quello lì. Però Palmirio, ti ricordi Palmirio mio nipote, lui c'è la porcellaia qua nella campagna di Sorso, Palmirio mio nipote, ti ricordi? Quello che faceva il camionista poi aveva mollato, ti ricordi? Sì, sì che mi ricordo, e a Puglia. Era lui ce l'ha capito. Da lui maiale, prendo tutto da lui, le faccio per lui e le prendo pure per me, le faccio per me. Bene, bene, da tutte le società. ma così si fa, ma io l'ho fatto due anni fa, quest'anno non l'ho fatto, sinceramente, perché ho fatto con un amico che era lì alle petraglie, e insomma, è un po' stipendioso anche, scendere e salire, quindi... tra una cosa e l'altra, quest'anno mi sono rimasto un po' calmo, però già sto buono, quando è roba sarda, è roba che ti cresci tu, già, è tutta un'altra mia. Ragazzoli, riprendo io, dai, che sto chiudendo, ci sentiamo alle prossime, se coincide, dai. Forse avete parlato per metà assieme. Ho detto, riprendo io che chiudo, ci sentiamo alle prossime, dai, salutoni circolari a tutti. Ciao Daniele, stavi bene, dai, buona serata. Ciao Daniele, fate un buon proseguo della serata. Ciao Daniele, ciao, buon divertimento. A più tardi si coincide, dai. Chi ci è rimasto? Antonio se n'è andato? No, si è chiuso. Io adesso che apparecchio stai usando? Io? Io. Come il tuo? K. Ma cosa c'hai? Amplificato, no? Il più 5 ho già. Fai il 48 con il più 5. Quello tu lo so, ho detto tiro invece che Gigi, ma volevo dire a Gigi. Gigi, cosa stai usando tu? Sì, tu stai facendo ben bene, sembra un apparecchio professionale come ti ha detto Gigi, sembra un Kingwood. Avanti Gigi, qual è la tua situazione di trabacco? Allora, questo è quello che avevo in camion, che lo operavo in camion, tipo un tornado, quello che c'è lo squalo. Quello celeste che c'è lo squalo e col nominativo mio, ti ricordi quello tutto celeste con lo squalo e che sta acchiappando il calamaro? Sì, ho capito. Va bene, dai, ci dà sempre bene. vabbè, comunque, in questi apparati bugi, mi sa che non le sta più facendo nessuno, l'ho trovato a Domenico Tarzanetto, mi ha detto che non sta più entrando nessuno con il camion, qualcuno proprio di rado, dice fai sassa di Cagliari, non senti più nessuno, dice come c'è la Gigi è un'altra cosa, ma che non vedi Gigi non entra più nessuno. Lo dicono tutti questo, ti ho mandato una foto ti ho mandato là. A vederla che sta caricando. Ci trovano in vendita, già, però sai, è sempre un punto di domanda. Un Pluto, non so se è modificato o meno, 200 euro sto mandando subito. Guarda, è Pluto bello, ce l'avevo io, ma bello però, capito, non da pagare 200, l'ho dato meno di 200 euro, però se valeva forse più di 500 quello lì. solo che niente, l'ho dato via. Ma quello che c'è in taverna? Quello? Quello che c'è nel bunker? Quello è conservato. Tu vedrai che proprio lo senti qua. Vizia, gabubu. Quello è un bel baracchino. Sì, lo devo portare qua a farlo frullare un pochino. E poi me lo appena ce l'ho, ti faccio uno squillo e mi dici come va posizionato un attimino, perché già lo stavo utilizzando anche giù, però c'è qualcosa secondo me che deve frullare meglio. Non le puoi attaccare le miele perché ce l'ha già lui. Lo so, tu pensa che gli hanno attaccato un brivido che gli ho regalato, un brivido 210 e praticamente l'ha sciolto, perché gli stavo dando 0,70 watt di entrata e quindi l'ha sciolto. È positivo. Però è sempre una cosa che si può recuperare, dai. Anche è stato un necco, era un bello, adesso l'ho dato via. Ma io sai che te la vedo al vino. Umbrella, è stato un necco. Ah? Qual era? Umbrella? Era umbrella. So anche chi ce l'ha. No, vabbè, io sai che sono lì, no? Quindi. Modificato era là. Positivo, modificato. Lo sai cos'è, oggi, che credo che magari. Se non sai come sono le modifiche, non ti metti lì a fare, sai, insomma, credo che lo volevo fare normale, però già va bene, già. Poi guarda molto anche i canali che ci sono e tutta la baranda che c'è dietro. È positivo, che va bene questo funziona tutto, questo funziona, banda laterale, bene, FM, tutto funziona, questo va bene, questo aspettami, guarda. Ho un binario 10 cambio. Già frulla. Gliele funge. Già frulla quello. Ma che ti. Che passi dalla voce normale alla voce arrabbiata. È positivo, dai. La cosa è bella assai. Yeah. Va bene, ma disturba quello lì, Gigi? Ma penso di no, non lo so. Penso di no, comunque va bene perché c'ha 3 watt di portante bianca con picchi di... arriva quasi 27 mi pare questo, 26, intorno ai 27 picchi sono questo baracchino qua. Io un watt e mezzo. Però se lo scendi di più ti fa la radio ancora più grossa, però cosa succede è che ti va in saturazione dopo, se abbassi troppo di watt, capito? Poi bisogna vedere se veramente... Che cosa? Quale baracchino stai parlando tu? Quello che mi hai venduto tu, Gigi. Sì, quello c'è... Quello c'è da sempre quei 20 picchi di 20, adesso non mi ricordo come di 20 watt, una cosa del genere già. Invece questo mi pare l'altro, il mio, questo che ho io adesso, il 48 qua, mi pare quello ne via di più, Questo qui ha 2 watt e va sino a 20 watt in modulazione. Così, ma quello c'è la regolazione dei watt pure, non me ne ricordo più, lo sai, non me ne ricordo più. No, esternamente no, Gigi, esternamente me l'ha regolati dall'interno. Perché invece aveva l'interno, giusto? Ma regolati dall'interno, non ne aveva esterno. Comunque, nemmeno uno di stazionario c'ho, con due fatti, non ti dà manco stazionario. Vuol dire, no, sono belle, ma poi si sfasciano mai quelli. Guarda, sono quelli che aveva fatto Roberto, io cioè. Non si, questa, anche questo aveva fatto Roberto, non si rompono, mai mi sono rotti a me, mai mi si sono. E poi accendevo la mattina quando ci vuole 4, sino. Non mi si sono mai, questo a te quanto ha lavorato in camion, un bel. Il mio è quello di Lumacone, è vero? No, il tuo è gemello di questo che c'ho io, dell'altro. Il tuo non è Lumacone, il tuo è Sabatino. Cazzo, quello non è resinato dentro. Ah, Sabatino. È resinato, io non l'ho mai aperto, No, non è, se tu l'hai detto, l'hai regolato da dentro, vuol dire l'hai aperto per regolare i watt. Non ce n'è il resinato, è libero con quel 48, l'ha fatto Sabatino. ma no, io non li ho regolati i watt, erano già così i watt. Io gli ho regolato solo lo smitter, te lo ricordi che c'era lo smitter che c'aveva la freccetta che era incollata perché era piegata. L'ho addrizzata e adesso va bene. È meglio così. E c'ho l'altro io gemello di quello lì. C'ho il gemello, arrivate tutti e due assieme, ce l'ho, adesso lo accetto. Gigi, il mio che aveva fatto, ti ricordi? Mi ha detto che forse la moto l'aveva fatto. Sono rientrato, Antonio, questo... ma questo qua è anche stilizzato, il Gigi, te lo ricordi il coperchio come ce l'ha questo qua? E cosa c'è? Lupè. E la bandiera americana davanti, e così tutti i pomeri illuminati che si fanno da blu a rossi quando parli. Ah no, la cosa c'era, questo c'era Lupè, il mio c'ha Lupè, quello era la bandiera americana. Davanti, sì. Ma sopra il coperchio c'ha... non mi ricordo se Lucchitti cosa era. È positivo. Ma sai che è rientrato? Ho sentito, sono rientrato. Antonio Riserva, Antonio, avanti. Sì, sono qui, salve, non so chi è entrato, salve. C'è Gigi Vulcano che è entrato di nuovo, saluta. Sì, ciao Gigi Vulcano, sono ascoltato. Tanto, ma sempre in riserva sei tu? Dalla vita, dal 1984, 85. Caparroccio. No, ci siamo sentiti prima, no Antonio? Ci siamo sentiti prima, abbiamo fatto le prove. Non lo fate con te le prove prima? Sì, ma è addormentato, Antonio è addormentato, guarda. Sto facendo Gigi, chi che me l'aveva fatto a mettere i corsi, che mi ha detto che era morto, se non mi sbaglio. Cosa? Non ho capito, non ti credo, mi hai detto? Questo l'apparato che hai portato tu a me a fare, chi che me l'aveva fatto a mettere i corsi? Il baracchino tuo? Mi sembra era Giancarlo o Roberto, rapido. Uno dei due l'aveva fatto, Giancarlo o Roberto. Non mi ricordo, mi ha detto che era morto, se non mi sbaglio. Può essere, o mi sto sbagliando? Sì, Giancarlo, quello che era anche radioamatore, sì Giancarlo, quello di Terralba aveva fatto quello lì. Boh, mi pare. Vedi, controlla adesso Antonio, avevo te arriva e a me. Intanto siamo lì, siamo attaccati Antonio, eh. Vai Antu. Passo. Ma se noi siete uguali mio. Tino, siete uguali come segnale. Addirittura, parlami sopra tu, vedi un attimino, guarda se qui dovrebbe essere male più forte. Non si capisce nulla perché vi siete uguali, non si siete l'uno nell'altro, capito, siete triti come segnale, siete uguali. Ma tutti non te ne fanno vergogna. Ma io sto usando 10 watt però. Ma non c'è da niente, ma c'è... tu c'hai l'antenna. Ma tu hai 10 watt sotto pure. Ma aspetta che spengo, guarda. Aspetta. Guarda un attimino, a vedere. Adesso sono spento. Bello Gigi. A te ho cambiato baracchino. Prova tu, prova ora. Dammi conferma però, perché sono... se attacca è l'unico che... Io ti ho parlato sotto. Ma sopra o sotto? Fammi capire, sopra o sotto? Cosa ne so se ti ho parlato sopra o sotto? Io ti ho parlato sopra. Poi se sono sotto non te lo devi dire. Com'è Gigi, com'è, com'è? Adesso stai... sei tu che stai... che proprio gli passi sopra. Sotto lo tappeto, vero? Lo so. Vedi? Contento sei? Guarda, non avevo dubbi. Vuoi mettere? Non avevo dubbi, però non ho 48. Oh, Tino, controlla questo. Questo è... il gemello è quello di Gianni, il 48, di cui ho lavorato a Gianni, però sono tanti, questo da un bel che non l'accendevo, l'ho acceso adesso, funziona ancora. Va benissimo, Gigi. Sì, a voglia Gigi, è perfetto. Aspetta un attimino, che forse l'ho attenuato, poi non vedere a parlare. Gigi, dimmi... vedi un po' adesso, non so se sta arrivando, che segnale sta arrivando, ma gira a cambio. 9:25, cosa vuoi di più? Sarà vita, Lucano. Attenzione Gigino Vulcano, se ascolti il doppio run che chiama, cambi. positivo già, tutto capo a Rogero qua, dai. Abbiamo fatto scaldare appena questo, oppure ero da tanto che non l'accendevo, ma almeno così l'ho fatto girare un po', dai. Scusate, devo spostare 2 secondi. Questo mi piace un bel Gigi. Mi sa che mi piace più dell'altro pure. Non ti innamorare però, eh. Positivo che capa Rogero, questo c'ha l'eco all'infinita, capisci? C'ha l'eco all'infinito, cambio. Eia, è bello, bello. Questo qua però mi sa che è stato il primo tuo, questo che c'ho io, vero? E forse sarà il quarto o quinto quello lì. Vabbè, comunque è uno di quelli che pompavano bene, dai. E il primo, allora, il primo è andato a finire, ce l'aveva Tore Spaccatutto. E aveva preso coso, l'avevo dato a, come si chiama, a Walter, che poi ce l'aveva Tore nel furgone. Quello lì era il primo, poi il secondo l'ho dato a Barra Agricola, il terzo l'ho dato, era il migliore che c'era, il terzo che quando mi conoscevate voi era il terzo, che quello che mi piaceva molto di radio, quello me l'avevo sentito lì a Olbia, e questo a tutti i costi mi ha chiamato che lo voleva, non è che lo conoscevo, e mi voleva mi ha detto se glielo vendevo mi dava 550 euro, io gli ho detto di no, mi ha chiamato, sto venendo a prendere, ho detto non te lo do, è venuto da Murta Maria, è venuto a prendere, se non lo conoscevo questo ragazzo, è venuto a prendere e mi ha dato 550 euro per quel baracchino lì, e gliel'ho dato. Vabbè, l'è venuto bene, dai. È positivo, e poi me ne ho fatto subito un altro, anzi avevo comprato immediatamente un 8001 che me l'aveva portato coso, l'8001, Luca del Monte, insieme a, non mi ricordo con chi era, di una persona, era nuovo, l'avevo fatto subito modificare quell'8001, capito? Poi me l'avevo fatto un altro 48 che ce l'avevo lo stesso, e poi mi ho fatto quello lì, quello che ho dato a te, però ne ho fatto pari, e poi c'avevo quello di Lumacone che non so dove sia finito quello lì adesso, quello di Lumacone pure c'avevo prima ancora. Che ne hai girato tanti di questi che modificano gli apparati, qual è il più bravo secondo te? Ce ne sono tanti, comunque questo Sabatino è il migliore, che mi piace, più ordinato, lavora meglio, che fa meglio il lavoro secondo me questo Sabatino, è lui che mi dà più fiducia a me, voglio dire, mi ha fatto sempre dei bei lavori, no? E poi non ho avuto mai problemi, capito? Non sono mai tornato indietro a fare nessun coso, perché sono andate sempre bene. Agappa. Beh, se va bene, c'è poco da fare. È come quei meccanici, no? C'è quello che ti fa pagare di più, però tu li porti la macchina e poi non la devi più portare. Adesso io ho la macchina nuova e praticamente devi premere la frizione per mettere in moto, no? E già 2 o 3 volte che ho premuto la frizione non mette in moto. L'ho portata, ma hanno cambiato la batteria adesso perché c'è che era difettosa. Voglio vedere, ho giubilato la macchina nuova per non avere problemi, l'ho dato l'altra che era ancora funzionante al 100% e mi trovo problemi qua. Ma che cos'è, una Renault? Non ho capito, no? E ho preso la tipo 16 valvole, 1400, benzina e GPL, la turbo. Ho capito, no, perché anche la mia, se non schiaccia la frizione non mette in moto, anche il freno, o il freno, uno dei due deve schiacciare, se no non mette in moto. Sì, a spinte non vanno più, cazzo, nel casino. Se non mette in moto non puoi nemmeno spingerle. Non lo so, no. Questo no, c'ha il telecomando, non c'ha neanche la chiave, non io ho chiave, c'è il telecomando che devi tenere in tasca, lo metti lì infili dentro, lo lasci lì e capito. Mette in moto col telecomando? Il pulsante c'ha, per schiacci il pulsante e mette in moto. Il telecomando lo puoi tenere anche in tasca, pensate che ce l'abbia in tasca, capito? Ho capito. Che macchina hai preso adesso, G? Siamo a Renault, a Megane, è un 1.9 turbo diesel. Oh, va? È un nuovo tipo? No, l'ho usata, l'avevo presa, dai, a posto di quella là, mi è capitata un'occasione, l'avevo presa, capito? Ce l'ho già un paio d'anni, credo. Un paio d'anni buoni ce l'ho. Bene. Sì, un 1.9 Comorri, non fa già un motore di furgone, è sotto, e va benissimo per quello che faccio io. A me, lo risparmio tutto in gasolio, a me, perché a gasolio, in gasolio lo risparmio, ho capito, no, mi dimentico di mettere gasolio in quella macchina. Una volta ne metto 20 euro, sono a posto quasi per tutto il mese. Certo. No, io la faccio andare a gas, è lo stesso, consumo pochissimo a gas, ne metto 23 euro alla settimana, però io viaggio a Porto Torres, lo sai, no? O perlomeno, non lo so se viaggerò ancora, ma sino a poco tempo fa viaggiavo a Porto Torres. È positivo, lo so, è sempre là, dai, alla Glenay. Pagata, vabbè, ma... Non lo so se rientro, non lo so perché non sto bene. Ho capito. E dico una cosa, ma l'altro col telefonino, vabbè, io l'ho attivato e quello invece, poi anche quello, non ci sono più entrato perché sono da tanto e non ci guardo neanche più. Per il fatto del telefonino, il TAC, come CTAC, CPTAC, come si chiama. E anche quello non ci sono entrato più. Anche io, è fredda come cosa. Sì, diciamo, è una nuova, è qualcosa di innovativo per chi non vuole mettere antenna nella macchina e cose, può parlare lo stesso, però è troppo fredda come cosa. Non ti vedi l'apparato davanti, è quello che proprio a me mi incanta, vedere tutto illuminato, tutti gli apparecchi, gli strumenti eccetera, è un po' fredda come cosa. Sì, amici miei, dai, l'ho chiesto e gli hanno dati loro i microfoni, gli hanno dati loro camionisti, li hanno dati loro per fare pubblicità. Non so se hai mai visto quello camionista in trattoria dove si paga, mai visto mai quel programma lì? No, negativo. Ho fatto vedere un po' di amici miei di qua, anche di su, del sud del continente, qua in Sardegna e coso, hanno fatto un programma, dai, andavano a mangiare nelle trattorie o ristorante che fosse, dove si spendeva di meno. È un programma che c'è la domenica, oggi cos'è? Domenica, Giusto, oggi è domenica, se è domenica oggi dalle 8 in poi vai a Raino a canale 9, lo vedi, capito, lo vedi questo, e tutti hanno questo telefono, questo, però col microfono che è attaccato al baracchino, e parlano, lo fanno vedere parlando perché gli fanno pubblicità, hai capito, alla come si chiama, la Midla, e l'ho chiesto a Giuseppe, a questi di Cagliari di qua che fanno, imbarcano qua a Porto Torres, se no ci ho parlato, dice no, ce l'hanno regalato loro per fargli pubblicità, però dice no, andiamo, dice, nel classico baracchino normale noi, però dice, la accendevamo e facevamo dei passaggi parlando sempre con questo col microfono che ti dico di comprare, dai. Quello lì va bene anche per il baracchino, che funziona con Bluetooth. E si carica come il telefonino, l'ho visto quello lì. No, loro gliel'hanno regalato proprio. Però l'ho attaccato al baracchino, però per parlare non ti fa la radio bella il baracchino. Se è un baracchino normale, sì, come loro c'erano tutti modificati, Mauro Criminale, coso c'era loro, c'erano tutti quelli lì. Giuseppe Peppe, come si chiama, di Cagliari, ce l'ha lo stesso perché ha fatto quel programma lì, capito, e gliel'hanno, la Midra gliel'hanno dato subito, capito, per fare pubblicità. Pagato. Chi è rimasto avanti? Antonio ci sei, Tino ci sei, chi è rimasto insomma? Franco. No, Franco c'ha gente, non c'è. Come benissimo, e vabbè comunque, no, pensavo di, diciamo, di monopolizzare e ho chiamato per quello. E questo cash era un po' che non lo usavo, Migi. Ogni tanto lo accendo, ma per poco, dai. È positivo, dai, anch'io adesso un po' gli ho fatti girare, però niente, l'ho fatto pure un po' io, ci ho tolto un po' di roba, non facevo più niente. Qualche lineare ci ho tolto, gli ho dati, che mi ho sostenuto solo, diciamo, ho quelli del camion ancora, ne ho due, 750 settaggi del camion, 24. 747 modificato, ancora ce l'ha. Quello l'ho dato a... L'ho dato a? A chi l'ho dato quello lì? Adesso non me lo ricordo a chi l'ho dato. Forse l'ho dato a... A Walter l'ho dato. L'ho dato a Walter, ma quello era micidiale, capo. E poi la radio che ti faccio? Un baracchino normale, cazzo, arrivava, ti da fare quei 100 watt buoni buoni. Un baracchino normale senza essere omologato. Con quelli modificati, guai. Ma qual è quello con l'avvento, Gigi? E quello con l'avvento, provalo quello lì, sono vedi cosa ti dà di batti quello lì. Provalo su quel 48 e poi ti spaventi. Tu prova uno normale quello lì e poi metto nella risposta. Tu guarda cosa ti fa salire di watt quello lì. No, vabbè, voglio dire, ma si può fare quindi la modifica? Sì, se si può fare. Quello lì è modificato. No. Ho fatto io quello lì. Non funzionava, me l'avevo dato, Pierpaolo, l'avevo dato uno di uso, non so chi. Non so di chi fosse, comunque Pierpaolo me l'aveva dato quello e qualche altro microfono, mi sembra. E io l'avevo controllato, poi l'avevo aperto, l'ho fatto, e niente, poi ho visto la cera di cosa, gli ho messo un altro componente, ma senza comprendermi proprio niente, l'ho chiuso, l'ho fatto, ho provato, e andava più del normale, non ho capito come mai, e detto, No, perché dopo ti rilascio già, scusami, siccome stasera ho provato un M200 che credo che andava quanto il 747, sono praticamente i componenti e non sta sviluppando quanto dovrebbe sviluppare. Sicuramente ho sempre tutto il qualcosa che si chiama, aiutatemi. Le finali stai dicendo tu. Non so cosa che sia, comunque quello lì pure dava, non ho capito neanche io, come mai usciva così tanto, ho capito. Io ho solamente cercato di riparare perché non funzionava e niente. E poi l'ho provato, ho visto che usciva un bel forte, capito? Con questo 48 qua mi dava sui 120-130 watt di picco, capito? L'ho attaccato a quel prutto lì, l'ho attaccato 200 watt da con quel prutto, quel prutto che da 70 che ti brucia il lineare, se li metti quello lì con la ventolina che l'ho provato tante volte io, è spaventoso, ti dà 200 watt. Allora lo proviamo, quando rientriamo lo proviamo. Sì, il finale, credo che si sia potuto girare, può essere. Cosa? Non ho capito, cosa ha potuto? Ho detto, molto fatto parte, aspetta che passi in avanti. Ho detto, sicuramente, in quell'M che ho dato a riparare, sicuramente si è fottuto il finale. Perché da 30 watt per me dava anche di più, 70-80 watt li dava prima, non lo so, te lo so dire quanto può dare quello lì, non lo so, non ne ho la minima idea. Vabbè, non ti dimenticare la modifica, che però facciamo anche uno che io. Lì l'ho avuto io preciso, dopo poco tempo mi si è rotto, mi si è ammalato pure a me. Invece 747 una vita, non ti si faccia rimbalzare, sono di quelli proprio resistenti, dai. È come l'apparato LAN 48, stessa cosa. L'EM l'ho avuto, c'hanno lo stesso interno del 747, c'hanno la stessa la stessa scheda, tutto quanto uguale, cioè. No, no, già, è diverso, è differente. Perché l'M che avevo io, che ho io, ha una spirale che si allarga, praticamente ho fatto questa cosa di radiofrequenza, ho creato quei, che si chiama quelle lenticchie, che le chiamo lenticchie. Vabbè, adesso me l'ha cambiati, però sicuramente ha fatto altro danno. Vabbè. Tanto costa una fisseria, quindi conviene più prenderlo nuovo che aggiustarlo, se ti fidi. Ma infatti, ho preso un altro, ho preso un 747, però questo sta pompando in confronto agli altri, all'altro non sta mandando, ti ho aumentato molto l'amplificazione della radio. Oh, questo funziona, guarda un po' se funziona questo. Aspetta, che mi stavo staccando, un braccio, ok? Ho detto, preso il segnale, non stavo andando, capito? Oh Gianni, questo funziona? Che funziona? Ma si basa di radio. Sì, questo è la quattro radio, qua. Ho neanche la porta. Beh, basta perché non parlo, guarda che non parlo. Sono fronte all'altro, devo abbassare il volume, adesso ho dovuto alzare perché, ma alzando il volume già è normale come radio, dai. No, questo è vergine, vergine. La radio però non mi piace, è un po' saturina. Sono qua, e se non stanno così, fanno lontano così, anche la tappa. Costantino sì, non è chiara chiara. Com'è Lottino? No, vabbè, io adesso ho cambiato radio, non ho notato grande differenza. Solo, sai cos'è? Che questo è un microfono che la batteria se la scarica, che ci sarà 2 o 3 anni, forse che si lavorava ancora, che ce l'ho lavorato con la batteria. Un M300. Ma sposo quello che sì. E l'ho messo con la porta, questo baracchinotto l'ho riparato. Aspetta. L'ho messo qua, sarà pure spesso scarica la batteria, non lo so. Ma può darsi. Quasi che sia quello. Tino, dai, parla. Beh, un attimino, scusate, altro lì. Sono qua, sei qua, ti ho rilanciato 50 volte e buco. No, stavo usando la pezza a mettere macchina a porta. Ah, ok. Oh, devo chiudere, ragazzi. Dai, ho fatto piacere, con te. Purtroppo devo chiudere che mi stanno chiamando. Allora, Gigi, ricordati la musica che lo facevo anch'io, eh. Sì, dai, G. Buona serata allora e ricordati che siamo qua quando vuoi. Ci sentiamo, buona serata. Ciao ciao. Sì, ciao. Ciao Gigi, ciao. Stai bene a tu. Sì, Roger, ciao Gigi. Comunque quello 2001 che chiamano quando era il mio, dove c'era la camera franco. Forse era proprio il tuo, perché non mi ricordavo, era il tuo quello 2001 lì, che era nuovo, mi ho venduto uno e mi avevo preso subito quello lì. La sera stessa, è venuto la mattina e la sera stessa mi ha portato il barmettino, me lo ricordo ancora, domenica sera. Sì, perché io l'avevo preso nuovo, scatolato, l'ho aperto, l'ho fatto la modifica. Io non mi ricordo che cosa, c'era da fare una piccola modifica, forse per i canali, per non so che cosa, quella da manuale. E poi l'ho dato a mio fratello. Mio fratello poi voleva un computer, allora ha dato un cambio di un computer a Franco del Tavolo. Franco del Tavolo l'ha dato a Luca e Luca l'ha dato a te. È positivo, è un bel apparato, dai, quel baracchino che poi l'avevo modificato, subito modificato l'ho messo, l'ho preso e l'ho mandato subito a fare, si è raccolto, l'avevo fatto subito modificare, e allora pompava veramente. Quello era il modello con tre finali, se l'ha modificato bene riusciva ad andare anche a 30 watt. Sì, no, immaginavo con 400-500 watt per il cambio quel baracchino. Va bene, dai, se devi andare vai, ti auguro una buona serata, scusami se ti ho interrotto. Sì, yeah. E saranno, questi baracchino lì minimo 7 anni fa, con i buoni sono 7 anni se non di più, eh. No, 7 anni, saranno almeno, io penso, 12 o 13 anni. ufficiale. Addirittura. Ma è perché da parecchio che l'ho fatto. Era. Ce l'avevo già perché ne avevo comprato. Aspetta, io non avevo comprato. Ah no, l'altro l'avevo preso da Pinuccetto il Moro, un altro 2001, avevo già un altro 2001 modificato, hai capito? E poi avevo preso anche quello lì, è vero. Sì, no, lo sai perché lo so, perché mi ricordo che io non ho mai fatto perché non parlavo più. Ma due anni, ragazzi, ci sto bene, dai, ciao, ci risentiamo, Gianni. Io ho già salutato, e che dici, tanto, come vedi funziona bene. A me mi diceva tutti che la voce la cupa e cose, invece io a te ti sento bene, o è la mia voce che lo fa cupo. Ma non sono già lì, io ogni tanto con questa storia della scorta che ha, la puoi chiudere il parlascolta, hai visto dove c'è quel buchettino? Lo puoi chiudere, lo puoi eliminare. Lo so, ma adesso non c'ho un cacciavitino parato di mano e non lo posso eliminare. Vabbè, comunque, la voce è chiara, non è cupa come dicevano. Adesso lo attacco il mio, a vedere se la senti cupa tu la voce. Vabbè, ce ne sono due qua di diversa, ce n'è uno basso e l'altro. Tu quale dici? Aspetta che abbiamo ancora solo il mezzo. Tu quale dici, quello vicino alle rotelline o quello di giù? Non lo ricordo, ma mi sa che è quello di giù, non mi ricordo bene. Comunque, quello lì è il problema, basta provare, bisogna provare, non me lo ricordo, mi sa che è quello di giù. E adesso non ho qua, non ho fatto le cose, adesso niente, dai, adesso ho fatto tutto lì, sono andato con la macchina, sono alimentato la gamba, tutto zero, tutto stancato, tutto conservato. Sì, ma va bene, caspita. Lo sai cos'è? Però non mi capisco di voi che sento cose, cioè mi hai capito così, non voglio lasciare niente io. Sì, ho capito. Perché è una cosa di mio, lascio lì, vaffanculo. Vabbè. No, già, poi vabbè, se ti ripeto, vedici le mani. Comunque, cosa ti volevo dire? Non mi ricordo. Ah sì, stavo parlando con Gigino. Che si possono modificare questi 47, no, questi 747? Sì, si modificavano tempo fa, io quando ai tempi che lavoravo in laboratorio li modificavo, ma noi dovevamo finire le cassettiere, quindi quelli di suo finale, ne mettevi un altro, ti cambiavi due induttanti, lo accordavi, non è andato, ma oggi cazzo già fai fatica per una resistenza, prima lo so finale. Ma io se riesco me ne prendo uno, un altro lo voglio, cioè al posto di quello, se non va, potrei usare quello per lo stesso prezzo, non lo so, vediamo, va. Antonio, vai già. Questo qui è il microfono che stai usando tu, dimmi come va. Una cacca. Tutto è. Per me sì. È lo stesso microfono, eh? Se dipende anche dalla radio. Sicuramente, perché comunque ti fa veramente la voce nella sina, una fatta così. Provo a parlare di fianco, guarda così. Che passa giù un po' però già. E allora così sto parlando di fianco, guarda se va meglio. Ma sì, si sente che è complicata, però non lo so, vabbè, io sono abituato a ascoltare con lei qua, e quindi non mi capisco un cazzo, comunque non è male, però è un po' rasina. E vabbè, aspetta un attimino. Devo controllare una cosa. Sì, secondo te? Sì, ma infatti glielo ho detto, no, per me non è regolato. Comunque non è male che della fantasia, lo so io questa, la mia voce come la. Ora? Come ti fa il microfono là? Ah, ho capito. Che sembri il figlio dei fiori. Anto, così è con l'eco, come va? E così mi piace di più, si sente però sempre che c'è un po', però non è così, è più amplificata l'altra, quella tua, l'altra. Però capito, non va male. Sì, vabbè, l'altra, il microfono è diverso, anche l'apparecchio. Questo è un apparecchio modificato, non è ma modificato, omologato volevo dire. È un apparecchio omologato, esce con 3 watt, non è che sia un apparecchio super. Però l'altro microfono dice che la radio era bassa, metto questo non va bene, ui. Allora ne devo comprare un altro, vediamo un pochettino se va meglio. Ma guarda, io ti ascolto bene, niente da dire. Adesso faccio girare un po' questo che da un po' che sta fermo. Ogni tanto lo accendo, ma per poco. Forse lo faccio scaldare un po'. Questo è un bel apparato, se lo vedi acceso, cioè, il reattino l'aveva entusiasmato, poi non se l'aveva comprato. Ma io l'ho visto, me l'hai fatto vedere con il display di grande giallo, è la tua ambra. Ah, è blu. È blu, ti ricordi male. Si può cambiare il colore, fa verde, ambra, blu e rosso. Vabbè, non è quello che hai giù in basso. Sì, quello che c'ho in basso. Questo qui è il Cobra, per intenderci. Quando l'hai acceso che mi hai provato il microfono l'altro ieri, l'hai nominato ambra. Sì, così, blu, è sempre blu. Perché adesso è blu, come l'ho acceso era blu. E vabbè. Magari ho toccato qualche tasto, perché c'è un tasto che cambia i colori, capito? Puoi mettere come vuoi, del colore che vuoi. Questo qui c'ha tutto, c'ha frequenzimetro, c'ha lo switch normale e in più quello digitale. Ha tutto quanto, non ne cambia nulla. Quello di canali ha? 40 canali, è normale. AMFM, punto. Normalissimo apparato, costa 140 euro, adesso l'ho visto 85 euro mi pare, la stanno regalando. E com'è che si chiama? Cobra, Cobra. E adesso il modello come si chiama di momento? Ma è un Cobra. Cobra omologato è quello 40 canali. Ma quello digitale stai dicendo? Già. È digitale, sì, quello che piaceva a te che poi tu non ti hai comprato. Perché poi mi è piaciuto all'inizio, lo sai. Era cazzo, che bello, che bello, che bello, poi invece ho guardato un po' di video, un po' di cose, sinceramente mi è passata la fantasia. Mi piace più l'altro, quello analogico, che porta più di prestazioni, più di modifiche e di tutto. Radio più corposa, più potente, più. Ma ormai è sceso, all'inizio lo so che invece lo guarda lì. C'ha tutto, comprati tutto, c'ha anche il rosmetro addirittura, c'ha il rosmetro, c'ha lo smitter, c'ha il frequenzimetro, il canale, il pisello, tutto quanto. È un bel apparato. Probabilmente vorrebbe modificarlo. Una modifica fatta dagli amici di Gigi, vedrà come esce. Sì, sì, infatti, voglio dire, magari all'inizio mi piaceva un sacco, anche la forma che aveva, perché è una forma al display a V, diciamo, dai. È bello, non è brutto, non sto dicendo che è brutto, però mi dava poi di un baracchino semplice, capito? Io ce li ho tutti così, sono tutti semplici, io non ne ho apparati grossi e cose, tutti semplicini, anzi ne ho un altro che sono da un po' che non l'attacco, è il Midland Alan 48 Plus, che è un bel po' di tempo che non l'attacco, quello con l'MB più 5 andava una bomba, gli avevo aumentato l'LC, andava proprio forte, usciva forte e forte, poi non l'ho più messo perché un po' mi aveva stufato come apparato, era semplice e semplice, invece questo qui è tutto ben illuminato, c'ha una bella visione, dai, e mi piace vederlo, perché è stile moderno, però c'ha anche un bel display. Sì, avanti. Stai uscendo, ma sei basso, chi sei? Ascoltate pure. Io già ho fatto una scimmia a bomba qui, è tutta una scimmia. Oh, qua è bassissimo, livello QRM. Che cazzo ti passa già? A me passa. No, ho detto già, lo sai che è fatto. Aiutare, per favore, fate andare. lascia perdere. Sta uscendo già ora. Sì. Sono un camminante in alto. E ti lascio di sapere, gli inserisci in fondo tranquilli. No, diciamo che l'ora di volare, si muove abbassata, lottata, vai. Va bene, devi tenere a tempo, non fare antenne. No, vabbè, ma l'ho spento, me ne accorgo. Spengo una, poi c'è l'altro. E solo da te, ti vedevo con lo scanner, te è qua, invece lì. Ti vedevo senza antenna. Ma non c'è, io sono qui, se tu dieci te ne devo inviare. Vabbè, è già in radio, come è questa? È buona, buona, va bene. Che ore sono? Già le 8:20 sono. Forse... Sì, sì, troppo passo con la terapia me ne vado a letto. Questi qua, se te se la trova, tutti e due siete con lo scala, quindi. Va bene, questo è l'altro, anche dove lui dice, quello diretto. Io stavo prendendo io, sì, non so, diciamo, scusami, no? Ah, non ho detto, perché tu dici? Non so che è quello, perché io ho una modulazione che mi piace tantissimo. Una modulazione spaccata, da radio tra i trasporti, Allora, tu stai molto dormi con me. Non sono andato di notte a tuttare, però lo so. Però sì, tutto pronto, oggi io però ti capisco. Insomma di giorno. No, ho detto, va bene così, di modulazione oppure dovremmo alzare, abbassare, non so di quello vuoi. Questo è più 4. Per me va bene. Sì, per la modulazione devi fare che metà già, perché io ti sento un po' più. Ciao Tino, buona serata a tutti e due, saluto di anche agli orientali ascoltatori. Ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao Falco! E tu ero già? Abbiamo chiuso, va bene, ciao ciao! Ciao Tino, ciao ciao! Ah, eccolo caro! Che ho fatto numero di telefono 079 26 18 26 aspetta un attimino. Porca. Ma che giorno ce lo facciamo? Adesso risponde al comando. Si viene la scimmia di nuovo e si attacca al baracchino. Trovati! Bella mai, mi viene più la scimmia, andiamo a dire, ci vediamo che mi mirata la e sai dove dice che sta alzando, si legge un po' tutte le macchinette eccetera eccetera. Allora va bene signori, ciao a più tardi se coincide dopo mangiare, se no a domani, ciao ciao ciao.